Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, io ci ho provato ad ascoltarvi, ma purtroppo per me è una trasmissione di cacca, la dovete chiudere. In questo periodo parlate solo di sesso anale, quindi di come prenderla a quel posto, parlate di come accendere i campi rom, parlate di come farsi il bidet, qual è la posizione migliore? Ragazzi, la dovete chiudere questa trasmissione! Siete una banda di ignoranti per il bene dell'umanità! Ecco la maggioranza silenziosa. Come dare torto alla rabbia di questa giusta signora, di questa ragazza che ci ricorda quanto questa trasmissione ormai sia diventata una sorta di latrina, direi un Vespasiano, se volessimo citare il famoso imperatore che mise la tassa e disse pecunia non olet, il denaro non ha odore, mise la tassa sui cessi. Ecco, questa trasmissione è la tassa di Confindustria, la tassa che gli imprenditori loro magari devono pagare per questa radio. È la loro tassa, è la tassa sul cesso questa sostanzialmente. Sì, così te lo dico io. Una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Ecco l'altro intellettuale della trasmissione. Signor Richard Benson. Sì, ecco, l'intellettuale. È l'intellettuale, il columnist, no? Della zanzara. Quanto lo vorrei vedere, quanto lo vorrei vedere a Sanremo da domani. Quanto lo vorrei vedere, sì, questo è quanto giusto, lo vorrei sì, vedere. Questo sì. In realtà, se noi facessimo un festival di Sanremo, sprofonderemmo negli ascolti. Lo vorrei distruggere con le mie mani, lo distruggeremmo. Io vedrei bello figo. Poi, bello fico, Richard poi Benson. Richard Benson, benissimo. Il divino, poi il divino Telma, sicuramente. Quegli altri che cantano Sali Padania, Padania, sì, lì, bravo. Quegli altri sì, lì che cantano sì, Sali Padania, fai sentire bella e forte la tua voce. Ma vaffanculo, dai. Però io inizierei. Chiudi. Io inizierei chiudi. Non con la Raggi, non no. Con la Raggi e tutta questa rottura. Con Prodi, bravo, Prodi. No, che allora, Prodi. No, voglio dire questo. Ha ragione Romano Prodi quando l'ex presidente della Commissione europea sostiene che quei due sono una minaccia. Di chi parla? Di Trump e della Le Pen. Ma figuriamoci. Ha figuriamoci. Ragione Romano Prodi perché. Perché nella, ha ragione? Cioè, già la stessa frase. Romano Prodi ha ragione. Ha ragione è praticamente una contraddizione in termini. No, ha fatto è quasi impossibile. Un ragionamento perfetto dell'intervista che oggi ha rilasciato. Allora, vi dico solo una cosa su Trump. Allora, nel 2011 Obama proibì per 6 mesi l'ingresso ai cittadini iracheni. Tutti zitti. Trump, intanto... 7 paesi, 3-4 mesi e diventa un mostro. Muro col Messico, Messico. Non è così. Ne parla Clinton, lo pensa e lo fa lo stesso Clinton e prende gli applausi. Un pezzettino. C'è un video, ma è uguale. Un video in cui la gente lo applaude al congresso. Dice la stessa cosa Trump, un mostro da sopprimere. Ma ha ripristinato il nuovo Hitler. Ma che nuovo Vi Hitler? Vi dovete solo vergognare. È un bidone. Vergognare. È un bidone delle contraddizioni, quell'uomo. Delle contraddizioni che portate appresso. Vi dovete solo vergognare. E basta adesso, basta. Ti ricordo che la Camera in America ha abolito i controlli sulla vendita di armi ai malati di mente. Cioè l'era Trump, la diffusione delle armi. Ma cosa come adesso? Che c'entra? Che c'entra? C'era un divieto per la vendita di armi ai malati di mente. Ma che ce ne frega adesso alle 18:37? È arrivato Donaldone, siccome hai citato il tuo amico Donaldone. Comunque impazzito, dai, 18:37 me ne frega niente. Chiudi lunedì, dai, via. Che fine. No, rimanda Barisoni. Facciamo più bella figura, guarda, rimanda Barisoni, manda Lino Milan con uno speciale anche la sera. Facciamo più bella figura, lo dico agli amici imprenditori, bisogna chiuderla questa trasmissione qua, chiuderla, è troppo chiuderla. Allora, dovete pagarmi però ancora, continuare a pagarmi. Andiamo al Carrefour. Tu dici perché andiamo al Carrefour? No, Carrefour sono dei supermercati. No, pubblicità, che vuoi fare? No, che pubblicità? No, infatti non ci vado mai, tra l'altro che non ce n'ho uno vicino, sennò ci andrei magari. No, ma infatti non capisco. Il signore del Carrefour sono una catena francese, come sai, di grande distribuzione. Certo. Bene, ha fatto un'incursione la signora Licia Colò. Conosci la signora Licia Colò? Come no, certo. Sai chi è? Cosa fa la signora Licia Colò? Fa un programma, ha mi presentato pare tanti anni un programma che si chiama Chi di Mangiaro, se non Chi di Mangiaro, no? Su Rai 3, come no, adesso certo. Non so di cosa si occupa. Però è andata lì e si è preoccupata la signora Colò. Per carità, va benissimo, uno si può preoccupare per tante cose. Tu ti preoccupi per Trump, io mi preoccupo, che ne so, della finale del football americano e del Super Bowl. Ogni persona ha le sue preoccupazioni, no? Ha le sue angosce quotidiane. Ebbene, la signora Licia Colò si è, come dire, rimasta sconvolta dal fatto che ha trovato dei piccoli granchi, dei piccoli granchietti vivi nelle confezioni del Carrefour. La grande denuncia. Ai, è brutto la grande questo. Denuncia. Ho trovato dei granchi vivi al Carrefour. Cioè, ci sono situazioni mondiali importantissime. E c'è l'Italia che insomma arranca. E, beh, c'è il Papa che dice quello occupa, che dice. Però. C'è la signora Raggi che ha tutti i problemi da risolvere. C'è Licia Colò si preoccupa di piccoli granchi trovati vivi al Carrefour. Sentite. In questo momento mi trovo in un supermercato della Carrefour, ho appena finito la trasmissione, vi faccio vedere che cosa ho trovato nel banco del pesce. Non so se si è visto, ma sono dei granchi vivi all'interno di questi contenitori coperti dal celofan. Io sapevo che comunque è vietato tenere animali vivi in queste condizioni in vendita. Adesso io non lo so quali sono esattamente le leggi sui granchietti vivi, non lo so e forse devo dirvi la verità, non lo voglio nemmeno sapere. Non lo voglio sapere, dubito che i signori di Carrefour, lo dico così alla francese, così attenti, ma tutti quanti quelli della grande distribuzione così attenti alle regole, abbiano violato apertamente le leggi su come devono essere conservati gli animali. Dubito che mettano gli animali vivi dentro le cose, dubito fortemente. Comunque, non lo so, può darsi pure che abbia ragione. A me, se io vedo un granchietto vivo dentro una scatola, dentro il celofan in vendita, mi diverte vedere quei granchietti che si muovono. Come ma che cazzo devono fare? Beh, i granchi? Diverte. Mi diverte, i granchietti si muovono, dopodiché però muoiono. Però i poverini fanno un po' impressione, no? I granchietti? Sì, i poverini, dai. Secondo lì, diciamo, Colò è amorale. Beh, farò amorale. Una protesta. Chissà se è arrivata la protesta ai signori di Carrefour. Mi sento impotente, farò una protesta ufficiale alla Carrefour perché è il supermercato dove io mi reco abitualmente per fare la spesa e ritengo che sia una cosa assolutamente amorale. È una cosa assolutamente amorale, libererò questi granchi e li disperderò in mare. Tu capisci che non c'è uno step, c'è una specie di... no, di progressione, di grande cavalcata. Cioè dopo la... uno dice sì. Rimani sconvolto, faccio la protesta, secondo step, terzo step, li prendo, li compro e li butto a mare per e farli li salvo vivere. Tutti, certo. Beh, questo è interessante, molto interessante. Adesso, anche se forse sarà un'azione quasi inutile, compreremo queste scatole di granchi, ce ne sono tre, costano 1,69 euro. Tutti animali vivi, 1,69 euro. Siccome abito vicino al mare, adesso anche se è notte andremo a Ostia e li proveremo a liberare. Non so che fine faranno, ma comunque ci proviamo. Chissà com'è andata a finire, chissà com'è andata a finire questa storia, la liberazione dei granchi, la liberazione dei granchi. Oh, la Mussolini se la prende con Bello Figo, una grande novità. La signora Mussolini dice che il rapper Bello Figo sputa in faccia a tanti italiani. Come sapete, Bello Figo è una storia che ci appassiona moltissimo. Cioè dire le peripezie di questo sì, però può rapper. Appassionare noi, ma ti pare che un politico serio si deve occupare delle resgesta? Ci dovrebbe no, occupare, dire, cioè... la Mussolini, noi certo, ma la Mussolini che si occupa di commentare le canzoni di un furbacchione tal Bello Figo. Hai ma parlato però miei, hai parlato di politici seri però. Ho detto ma i politici seri non si dovrebbero occupare di questa roba, dai, di Bello commentare Bello Figo. Ma di che parliamo? Su, dai, ma dai. Beh, però insultarlo di morte, minacciarlo di morte forse su internet No, questo assolutamente non dobbiamo arrivare, però non dobbiamo neanche arrivare a provocare, a sputare in faccia agli italiani quando c'è tanta generosità che gli italiani hanno verso tante persone e non c'è reciprocità. È È partito, ragazzi, il grande attacco alla pornografia. Dopo Adinolfi che ha detto che bisogna praticamente bannare molti siti porno, una follia totale. Parenzo, sì, magari sarà anche d'accordo. No, cioè, la cosa incredibile. No, secondo me tu sei d'accordo. No. Beh, tu ti dico di no. Se vuoi, secondo me di sì, sei d'accordo. Sono profondamente contrario. Secondo me sei d'accordo invece. Secondo me sei d'accordo. Ma se vuoi ti dico che sono d'accordo. In questo momento stai dicendo se così. Se ti fa dormire meglio la notte, ti posso dire che lo sono totalmente contrario. Ma come si fa? Dire? Dai, su. Come si fa a bannare i siti comunque, porno? Diciamo stupidaggini. Nei giorni scorsi, bravissimo, grande filosofo, sì, ha detto che la pornografia è la cultura, ma che cazzo ne so, ragazzi, il solo fatto di mettere insieme pornografia e cultura fascista. Sentiamo cosa ha detto. Dice che è una cultura fascista la pornografia. Galimberti, per carità, grande rispetto, grande mente, grande filosofo, tutto quello che vuoi, però la pornografia ha una cultura fascista di fondo. Ma che cazzo è, ma chi se ne frega. Il sesso è diventato un gesto, è a disposizione loro la pornografia, che per me è una cultura fascista la pornografia, e lo dico in questo senso che da un lato è depressiva perché nessuno di noi ha le performance degli attori e delle attrici porno, ma soprattutto perché uccide il desiderio, l'eccesso di pornografia vista, e quando il desiderio è ucciso, il desiderio è un potenziale rivoluzionario, non desidero cambiare il mondo se certo, il mio desiderio è stato ucciso. Allora, ci sono due questioni che pone il grande filosofo, ragazzi. Non è sbagliato, oggi, sai, è un bel argomento. Lo vedi, lo sapevo che ti convinceva. Non è sbagliato. Cioè, provoca depressione perché vedi trombare quelli con misure incredibili e con prestazioni di tutti i tipi. E dunque ti deprime. Questo a me non mi spaventa. Sciocca la zanzara! Parenzo parla del suo... No, assolutamente, ho commentato una cosa. Sciocca la zanzara! Anch'io ho prestazioni da pornostar. Ma non è vero, mai detto una cosa simile. Invece il Quotidiano Libero dice... Hai visto l'ultima notizia? Quotidiano, poi la bisogna finire Galimberti. Quotidiano Libero, disfunzione erettile, virgola, parla l'esperto, due punti, cosa rischiate oltre l'incubo sessuale, ragazzi. Ma dai, Libero. E poi dice anche che uccide il desiderio. Sì, quello ragione, può darsi, quello può darsi, ma l'eccesso, come tutti gli eccessi, no? Vabbè. Vero, poi anche i ragazzi dicono: mamma mia, sì, allora bisogna fare. Sì, ma non è che ci vuole. Yeah, like this, please. Oh, like this. Ma dai, ragazzi, sì, è una roba ridicola. Non è che ci vuole filosofo, però. Non è che ci vuole filosofo. Tutto sto sesso messo così venduto. Com'è che fa poi? Yeah, like this, put there. Ma dai, sack me. Così suona. Sembra romagnolo, no, ma non sembra nemmeno offensivo. No, suck me. Ti ho detto che è da chiudere sta specie, l'ho detto fin dall'inizio io. Però c'è anche la De Mari, la De Mari. Chi è la De Mari? Il grande ritorno della De Mari sul sesso anale. Mamma, lo vuoi sentire il grande ritorno? Dove è intervenuta la prof? Beh, dappertutto ormai, dappertutto. Abbiamo sdoganata noi su Facebook, in radio private. Alla Rai, no. Radio locali più che private. No, Facebook sì, alla Rai. Ti pare che alla Rai parlano ti pare che alla Rai parlano di buco di culo? Dovrebbero, ma non parlano. Non lo so. Ma non parlano, no. Cioè, dai, su. Fermi là, fermi. Cosa c'è adesso? Il traffico. A me non me ne frega niente del traffico, non me ne frega niente. La Zanzara. Comincio ad avere un sospetto. David Parenzo, cellula dell'ISIS. Parenzo sindaco di Padova, Parenzo sindaco di tutti, siamo al top. Allora ragazzi, sempre sul caso di Basto, Parenzo. Io pensavo volessi dare altre pillole da liberoquotidiano.it. No, Rai, virgola, disastro in arrivo. Dici, che cazzo è? Salta tutto, addio allo show salva ascolti. Poi apri e scopri, c'è ancora in forse la partecipazione di Mina e Celentano per il loro show. Come ancora in forse? Clamoroso flop, salta tutto. Ma che sa, cosa dite? Cosa dite? È tornata la De Mari. Dopo andiamo a Basto. È tornata la De Mari. No, io sono una donna, Luxuria non so cosa sia o non sa cosa sia nemmeno lei. La De Mari. Essere femmina, essere maschi è un ventaglio, ma io sono una donna. Il signor Vladimir Guadagno, mi dispiace, ma non lo è, non sa cosa voglia dire, non ha nessuna idea di cosa sia l'identità femminile. Io non so, se tu avessi di fronte in un'isola deserta, la De Mari, la Silvana De Mari, la dottoressa, come sai, sì, no? Sì, la, sì, l'endoscopista, sì, sì, psicoterapeuta, non so che cos'altro, eccetera. È quella che va a esplorare gli ani degli italiani, diciamo. La signora De Mari, in un'isola, la signora De Mari, te la ricordi un po' come è fatta? Andare a vedere. Sì, sì, l'ho Silvana visto De Mari su Google, vai a vedere immagini. Sì, e sì. Vladimir Luxuria, con chi trombi? No, ma per no, dire. Mi porto. No, guarda, mi porto un libro di Goethe. Ti ammazzi di seghe. Mi porto un libro di Goethe, mi porto. Preferisci la masturbazione? Un libro di Goethe, no, mi porto. No, io vado con Luxuria. Io te lo dico, cioè, no, se devo scegliere tra signora De Mari, la signora De Mari, e Vladimir, sciocca la zanzara, Cruciani confessa, sono stato con Luxuria. No, ha detto se per caso, però intanto va, sciocca la zanzara, Cruciani confessa, sono stato con Luxuria. Ma ragazzi, dai. Comunque, tra la De Mari e Luxuria vado con Luxuria, ve lo dico, ma non c'è il minimo dubbio. Io leggo Goethe. Sessualità slegata da fertilità fa in schifo tedesco. Adesso vedi la De Mari, cioè, dice che la sessualità slegata dalla fertilità fa schifo. Ma come si può fare un'affermazione del genere nel 2016? Ma non andava bene nemmeno negli anni 50 questa roba qua. Cioè, la sessualità slegata dalla fertilità fa schifo. Ma perché deve fare schifo? Spesso c'è gioia, c'è convinzione, c'è amore. Sì. Dai, su, ma che roba è? De Mari, dai. La sessualità slegata dalla fertilità fa schifo come fa schifo mangiare e vomitare. A proposito di Vasto, caro Parenzo, un avvocato rimasto in sedia a rotelle dopo un incidente stradale e non ha avuto giustizia, così racconta, si chiama Cristaldi, ha creato un gruppo che è Fabio Di Lello Libero, in supporto di questo ragazzo che ha assassinato quello che ha investito la sua fidanzata e ucciso la sua fidanzata. Scrive. Un eroe. Vorrei tanto essere il suo avvocato per guardare in faccia il giudice che eventualmente lo condanni. Ha fatto giustizia dove la giustizia non arriva. Il mio investitore ha avuto solo la patente sospesa per qualche mese e basta. Io invece sono stato condannato a vita a soffrire. Ora, molte persone so che sono d'accordo con questo avvocato, che condividono l'idea di questo avvocato, che è un po' barbara, diciamo la verità, perché considerare quello un eroe, considerare che ha fatto giustizia mentre anche la famiglia, lui stesso si è pentito, la famiglia è disperata perché ha aggiunto tragedia a tragedia e sa di essersi rovinato. Però cosa c'è dietro questa roba qui? C'è questa sfiducia profonda nel fatto di ottenere giustizia. Vabbè, sentiamo Alessandro da Padova, dai, Alessandro. Alessandro? Pronto? Dimmi. Sì? Vai. Dai, intanto ciao Cruciani, Parenzo non lo saluto. No, Dio, perché? Allora, Parenzo, ti devo dire due cose. Ricambio, il non saluto. Allora, ma perché non lo saluti? Perché non lo vuoi salutare? Allora, intanto Parenzo, il tuo buonismo ormai è arrivato a livelli imbarazzanti. Non c'è nessun buonismo, io sono cattivissimo, anzi. Sì, nessun buonismo. Sì, appunto, quando vuoi tu poi tiri fuori le grinfie. Poi ti devo dire un'altra cosa. Sono cattivissimo, per gente come lei per me non dovrebbe. Poi? Sì, poi ma tu lo voteresti, gerarmi, Parenzo, lo voteresti Parenzo a Padova o no? Ma col cazzo, è peggio di Bitonci, Parenzo. Ma in che senso? Come peggio di Bitonci? Da che punto di vista? Sì, anche se è di sinistra è peggio ancora, perché poi gli estremismi sono peggio. Gli estremismi. E poi Parenzo, basta con ste querele, ti querelo qua, ti querelo là, dai, che sennò fai come i conigli da radio, come dici te, no, che fanno i leoni da radio. Dipende, se uno offende. Con ste querele. Se uno offende, oltre un certo limite, è evidente che scatta la querela. No, ma ha ragione Alessandro, basta annunciare querele. Ma tu offendi tutti i giorni, Parenzo, tu offendi la gente. Infatti lui prende, lui se qualcuno... Infatti io se mi prendo la querela, quando mi è capitato l'ho presa. Ah, bene. No, vabbè, Alessandro, allora? Allora, volevo dire, cazzo, io l'ho chiamato venerdì per parlare di una cosa, poi mi chiamate lunedì. Vabbè, Edoardo, ciao, Edoardo, Roma, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Vai, ciao, dimmi, caro. Dimmi. Eccomi. Senti, volevo parlarvi del caso di Vasto, citando una cosa che mi è capitata a me ormai una decina d'anni sì, fa. Dove ho perso un parente, ho perso mio nonno, in un incidente stradale. Sì. E da una persona che ovviamente aveva rubato un motorino sì, senza documenti, sotto effetto di droghe sì, e l'ha investito e l'ha ucciso sul colpo. Caso molto diverso però da quell'altro perché sì, là non c'era effetto, non c'era droga, non c'erano no. Forse c'erano delle infrazioni sì, stradali, vedremo. Io lo cito proprio perché mi ricordo in quel periodo il senso di ingiustizia che provò mio padre per aver perso dalla sera alla mattina il padre, sì. E non c'è stata riconosciuta giustizia, perché poi questa persona non si è fatta neanche un giorno di galera. Allora, questo è il punto, è questo qua ha ammazzato tuo nonno in pratica, no? Cioè, sì. Non poteva guidare quella motorino, macchina, esatto. Che cos'era? Non poteva guidare... Sì, era uno scuderone. Non poteva guidarlo, era sotto effetto di che cosa? Alcol o droga? Sembra droga. Sembra droga, non ha fatto un giorno di galera, questa è la follia, cioè, questa è la follia, e questo siamo è il motivo... D'accordo. Ma è questo il motivo per cui molta gente è incazzata. Cioè la gente è incazzata di base. Su internet scrive un sacco di stronzate, lo sappiamo, eccetera. Roba? No, non voglio giustificare nulla. Figurati se cioè, non è che giustifichi quello che ha sparato a quell'altro, anche perché lui stesso dice di essersi rovinato ormai, perché è evidente che si è rovinato. Dunque, chi lo chiama eroe sbaglia. Il punto è che questa rabbia che c'è, e che probabilmente sarà anche la tua, è giustificata dal fatto che la giustizia poi si comporta come si è comportata nel caso del nonno, cioè nel nonno di Edoardo. Cioè questo qua non ha fatto manco un giorno, ma non vuol un dire giorno niente. Di galera. È che quel tipo di reato è sanzionato, vabbè, in ma questo non fare modo. Del tecnicismo, è chiaro che è così. Ma no, ma altrimenti si può dire di alzare le pene a tutti, Si possiamo Vincenzo dire da che... Palermo, vai, Vincenzo da Palermo. Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Vai, Vincenzo, niente, volevo parlare della Colò che si lamentava perché ha trovato i granchi vivi a 1,60 euro. Ma meno male, cioè di solito paghiamo molto di più per prenderli surgelati, che sono morti non so quando, almeno li mangiamo freschi, quindi perché si lamenta? Anzi, perché erano vivi, si lamenta perché erano vivi. In più, sono freschi, io dal pesci vendo, se non sono freschi, se il pesce non è vivo non lo compro, quindi figurati. Ma chiaro, deve essere vivo, si deve ancora muovere prima di esalare l'ultimo respiro il pesce, ragazzi, ma è così. Appunto, cioè, lo devi vedere, lo devi vedere. Ma certo, il pesce vivo, ma devi vedere lì che sta lì e che si dibatte, no? Gira, sai quando girano i pesci? Quando girano i pesci che stanno per esalare l'ultimo respiro, Parenzi, è affascinante questa cosa, no? Beh, quando no, vedi quello ti commuove. Ma che commuove? Ma uno come cazzo fa a commuoversi per il pesciolino? Ma perché bisogna essere ipocriti? Ma no, ma tu ti commuovi per il granchio? Ma dai, no, mi commuovo per il granchio, no, il granchio. Ma non frega niente a me, io lo mangio al baglione il granchio, ma non frega niente. Quanto costa il baglione? Ma costa 90 euro, ma non frega niente. Fermi. Però al viaggio di ritorno posso mettere la zanzara? Come fottiti? Ti spiace se metto la zanzara? Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. La zanzara. Ma il problema non è che la Rom va a pulire a casa di Napoletano, il problema è che Napoletano deve assumere due persone, una è quella che pulisce e due è una guardia giurata che la guarda a vista, perché lì a casa sua penso che ci sia tanta roba, eh. Stiamo per mandare una Rom a casa del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Ma sarà contento il direttore? Noi gliel'abbiamo detto, eh? Una signora del campo Rom di Castel Romano, sulla Pontina. Allora, questa signora Rom che sentiremo più avanti, la cosa incredibile è che uno gli offre un lavoro qualche ora al giorno e questa qua che cos'è che fa? No, io poi come faccio ad arrivare lì? Benzina, mi costa più benzina. Si è posta un problema di mobilità. Ma che problema di mobilità? È che non c'ha voglia di fare un cazzo. E no, ha anche detto: non voglio fare lavori pesanti, spostare mobili. No, quello non l'ha detto. Quello sposta l'ha detto. Come no? Spostare mobili. La schiena si vede. Dai, non lo so su. Io adesso, dai. Parenzo, visto che non ti puoi permettere la zingarella per fare le pulizie, te la paghiamo noi, i camionisti della zanzara. Facciamo una bella colletta e ti metti la zingarella in casa. Vediamo quanto sei falso e ipocrita. Allora, come sapete, a me non piacciono le condanne, i processi, i tribunali, eccetera, eccetera. Cioè, ti piacciono per gli immigrati? No, non mi piacciono le querele per diffamazione, sto dicendo questo. Ah. No, non in generale, figuriamoci. Assolutamente, non è che penso che i tribunali siano eversivi, per carità. No, appunto, però se uno ti dà dello stronzo, amico mio. Ma chi se ne frega, amico, dovrei fare 50 querelle al giorno. No, se uno ti offende, no, dello stronzo, guarda, va bene, d'accordo. Mi ha appena scritto, ti faccio un esempio, no? Come i granchi... Speriamo che sarai tu a finire presto in celofanato vivo in una bara. Capito? Poi mi sai dire le sensazioni provate a morire lentamente. Speriamo che ti muova anche tu mentre stai esalando l'ultimo respiro. Sì, non è simpatico, Cruciani, come augurio. Cruciano, anzi, dice: per quanto possa provare disprezzo per Vanna Marchi e lo sgorbio di sua figlia, ritengo meno imbarazzanti di voi due coglioncelli. Questo è un signore che invito a chiamare, che ha un numero londinese. Vabbè, insomma, a me non piacciono le condanne per diffamazione in generale. Però, amici miei, nel fine settimana è arrivata una notizia, è arrivata anzi venerdì sera. Rizzi, il nostro amico Rizzi, sì, l'animalista che odia, sì, i cacciatori, eccetera, qualche tempo fa insultò un politico, credo che fosse il presidente della regione Trentino Alto Adige o della provincia di Trento, anzi non mi ricordo, che si chiama Diego Moltrer, che era morto durante una battuta di caccia. Cosa aveva detto il signor Rizzi qui alla Zanzara? È stato condannato a 2 anni sospensione, pena sospesa, anzi 2 mesi di reclusione, pena sospesa, e 34.000 euro che deve sganciare subito. Molla i quattrini, Rizzi, molla i quattrini alla famiglia che si è sentita diffamata dalle tue porcherie sui cacciatori, Rizzi. E lei è felice per la morte di una persona? Per la morte, no, di una persona? No, di un cacciatore diverso. Ma è una persona! È diverso! È un non uomo! Non me ne può fregar di meno. È questa un persona uomo! Ogni giorno prende un fucile, si esce alle 6:30 del mattino, imbraccia un fucile e sa benissimo che va ad uccidere altri esseri viventi. È morto un assassino. Scusi, ma la famiglia, di fronte al fatto, metta che qua della famiglia, ma lei sa chi se ne frega della famiglia? Ma chi se, ma cosa vuole sentirsi dire? Lei mi sta chiamando perché io ho scritto un post, sì, dove ho detto che sono felice che è morto un cacciatore. Ecco. No, allora, è morto una persona, non un cacciatore. È morto un cacciatore, un assassino, un infame, ok? Ma la famiglia, la moglie, i figli, come devono sentirsi di fronte? Non niente della famiglia. Io insieme, mi creda, centinaia di migliaia di migliaia di persone, ci auguriamo che questi signori, sì, si sparino tra loro, sì, si uccidono tutto, si tolgano dalle, scusi, scatole, aspetta, in modo tale che gli animali possono continuare a vivere. Lei, io non sto cambiando le carte in tavola. Si è rallegrato per la morte di una persona. E glielo confermo. Ma no, ma infatti questo confermo. Va benissimo. Sono felice, bene, Cruciani. No, Cruciani, ma sono felicissimo. Guardi che la famiglia, la famiglia di questo qua le dovrebbe fare un culo così, lo sa? Le dovrebbe fare un culo così. Guardi, se io sono felice che quello è morto, con lo Stato per cosa mi deve condannare? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa roba qua, lasciamo perdere. Se lei mi dice mi deve fare un culo, che culo mi deve fare? Vabbè, io dico la famiglia, per quello che lei ha detto, per quello che lei è morto, siccome è morto, non mi può più denunciare. Ma si vergogna anche di quello che ha detto. Sto dicendo che questo signore è morto. È morto. Lei pensa invece a casa, lei stava a casa e non succedeva. Perché infame poi? Infame, perché uno che prende il fucile e si mette a confronto con un povero coniglietto di mezzo chilo o di un uccellino di 10 grammi. Ma per lei gli animali e gli esseri umani sono lo squarta in mille pezzi. Ma che pensi che sia una persona per bene questa? Squarta, ha sparato. Beh, amico mio, era così sicuro che nessuno poteva querelarlo che adesso deve cacciare 34.000 euro. Ripeto, io non sono contento, però avete sentito quella frase, sì? Avete sentito quella frase? Vigliacco, infame, era appena morto un tizio, presidente della regione Trentino, là del Consiglio Trentino. Vigliacco, infame, chi se ne frega della famiglia? E la famiglia te l'ha messo in quel posto con la querela, caro Rizzi, te l'ha messo in quel posto, adesso paghi. Sì, beh, certo. Allora, Claudio, provincia di Torino. Vai, Claudio. Sì, eccoci. Vai. Io volevo fare solo un appunto, una precisazione da parte mia. Un appunto, una precisazione, amico mio. Un per quanto riguarda la vendetta di Vasto, io credo che molta gente l'avrebbe fatta al posto suo. Il problema è che non aveva avuto il coraggio di farlo. Ok? Cioè, molta in che gente... senso? Scusa, molta gente voleva, secondo te, vorrebbe fare quello che ha fatto. Le vittime, i familiari delle vittime. Cioè, ma secondo te tu elogi il marito di quella là morta in un incidente? No, io non elogio nessuno. So da dire che il problema di fatto è solo la legge italiana, perché la legge italiana prevede una reclusione dagli 8 ai 19 anni in caso di omicidio plurimo. Okay? Vabbè, ma cosa vuoi dire? Secondo te ha avuto le palle questo qua, oppure è semplicemente uno? Secondo che... me molte altre persone che sono familiari. Sì, ma lascia delle vittime, perdere le tue analisi sociologiche. Voglio capire cosa pensi tu, cosa avresti fatto tu. Se lo consideri uno che ha le palle, se lo consideri un eroe come quell'avvocato. Un assassino. No, so di uno che sa il fatto suo e che ha avuto i coglioni di andare da quello e sparare. Ma cosa vuol dire che sai il fatto allora, suo? Però quel tizio cosa là... vuol dire che no, sai io fatto voglio suo? Dirti, Claudio, voglio dirti, sì. Claudio, che in realtà lui adesso è in carcere e sembra che sia disperato per quello che ha fatto. Dunque non è sicuramente, ma se quello è il fatto di però la perché questione lo... che lui fra 6 anni esce, lui fra 6 anni esce. Cioè tu dici alla fine lui 6 anni esce. Ma ho capito, ma 6 anni ragazzi, ma non è che 6 anni sono pochi in galera. Ma, scusate, capito, però si sta perdendo il senso delle cose. Si sta perdendo il senso delle cose. Un conto è un omicidio volontario. Questo signore ha volontariamente ucciso, anzi voluto vendicare, come si usa nel Medioevo. Tu stai dicendo che questo di Lelle è una bestia. Io Parenzo? Sì, Parenzo. Ma una bestia, assolutamente. Ha usato un istinto, sicuramente. Okay, sì. Una bestia. Ma non so se è una bestia, fuori dallo stato di diritto. Ma la vendetta non attiene al codice, attiene a altri regimi la vendetta, ad altri istituti, non allo stato di diritto. Perché pensi che ha avuto le palle tu, Claudio? Ha avuto le palle perché, ripeto, molti familiari di vittime lo vorrebbero fare, ma non hanno le palle sì, di farlo. Sì, ma ho capito, lascia perdere quello che pensano gli altri. Okay, voglio capire quello che pensi tu. Che penso io è che se io mi vedo mia moglie che viene ammazzata sotto una macchina e poi dopo 5 anni, anzi se ne passano 3 è già un miracolo. 6 mesi, erano passati 6 mesi. No, 3 anni di condanna. No, io sto parlando di reclusione, Allora? Perché poi c'è l'indulto, ci sono le attenuanti, c'è la firma, gli obblighi di firma, ci sono i domiciliari. Cioè se tu vedi tua moglie è falciata da uno che magari è passato col rosso, eccetera, vai là e spari. No, aspetto che si fa i 3 anni di reclusione, almeno si caga un po' di galera e poi vado lì e gli sparo. Vabbè ragazzi, però oggettivamente siamo nel campo della... Però se la legge italiana prevedesse che lui si facesse l'ergastolo o si facesse 20 anni di galera... Ma l'ergastolo, per ogni delitto è prevista una sanzione... Lui pensa che l'omicidio stradale non volontario ovviamente, cioè per fortuito motivo, per colpa, ma lo rosso, non il rosso, eccetera, merita l'ergastolo, ho capito, benissimo, merita l'ergastolo. No, ma lui ha semplicemente detto una cosa, che spesso gli omicidi, anche quelli non volontari in Italia, sono puniti in maniera troppo leggera, giusto? Ma non Claudio? È vero, sì, la gente viene condannata anche a 30. Un esempio assurdo, la Franzoni, quanto si è fatto di galera? Beh, per aver ammazzato un bambino almeno, così piccolo, almeno 20 anni. 3 anni di galera. No, sono stati 3 anni di galera. Guardate a controllare. Assolutamente no, di più. Maurizio, Roma, chiediamo a Taormina, va Maurizio, Roma. Oh. Hello, Mauri, dimmi. Allora, io volevo dire un paio di cosine. Una alla signora Colò. Sì, che vuoi dire, signora Alicia Colò? Deve stare bene attenta, perché se quei granchi sono granchietti di acqua dolce, lei diventa ovviamente un'assassina. Cioè tu dici, se li butta a Ostia al mare, come ha detto lei, li ammazza subito, dici. Dopodiché, una cosa, siccome, guarda, io ho vissuto 5 degli ultimi 3 anni... No, però sento poco, Mori, cerca di farmi sentire bene. In Cina il pesce si vende vivo, ci sono gli acquari nei supermercati e anche nel mercato rionale. In Cina, diciamo, non hanno però una grande cultura di rispetto degli animali, ma io me ne foto totalmente. La caccia è proibita. Sì, vabbè, d'accordo, non sono specializzati nel rispetto degli animali. Si mangiano il cane, Il ragazzo di Vasto sarebbe stato... è giustiziato dalla legge perché in Cina una vita vale una vita. Sì, ma ragazzi, ma questo qua però è un incidente stradale. Per colpa hai provocato un morto? Niente, ti aspetta una parlottola in testa. Ma figurati, Sencina, ti sparano in testa, ti giustiziano semplicemente perché passi con rosso. Forse passi con rosso e ammazzi una persona. Morto, se hai provocato un morto, sì. La Cina come esempio di civiltà, secondo Maurizio. Fermi tutti. Ragazzi, è dall'inferno che vi parlo. E volevo dirvi che qui la zanzara prende. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La zanzara. Amore, vediamo se hai studiato. Ti interrogo. Chi è il peggior nemico di Parenzo? Mauro da Mantova. Qual è il maggior successo di Richard Benson? I nani, i nani, i nani. Ogni quanto si cambia i calzini cruciani? Tutti i giorni. Ma no, amore, no, te l'avevo detto di ripassare l'igiene personale di Cruciani. Massimo ogni 4-5 giorni. Non hai studiato, vai di là, ascoltati 4 podcast della Zanzara e ci risentiamo lunedì. Beh, risposta sbagliata, caro David. Risposta sbagliata al quiz sulla Zanzara. Risposta sbagliatissima. Povera. Ma finanza. A questo punto, a grande richiesta, io riascolterei i nostri speciali. Uno dei nostri speciali. Che fine ha fatto quel garantista che ha chiamato prima? Quello cresciuto alla scuola di Beccaria. Che fine ha fatto quello che vuole farsi giustizia da solo? All'eventuale investitore della moglie. Sì, diciamo. Quello vabbè, che è andato cresciuto via, ha detto... all'epoca dei delitti e delle pene, diciamo. Ma che c'entra? Quello ha detto la cosa, quello che pensa. Quell'illuminista lì, che fine ha fatto? Vabbè, che puoi avere tutti i filosofi, avere qui alla filosofi, uno che semplicemente non predica la giustizia. Vabbè, tu consideri privata. Questo Fabio Di Lello, che è in carcere, io considero eccetera, questo è una tragedia. Quello ha perso la moglie, questo lo sappiamo. Quindi è una tragedia assoluta. È che ce lo dici, lo considero un signore che ha usato il suo istinto e quindi la sua rabbia. Un animale, una bestia, dai. Lei ha ucciso una persona, che deve fare? Ha ucciso una persona per vendetta. Come si chiama questa roba a casa vostra? Una bestialità. No, detto. Ma a casa tua come si chiama? Omicidio, la vendetta. A casa tua. Adesso ti dico come si chiama a casa mia la vendetta. Sì, la vendetta come si chiama? Si chiama Medioevo. Barbaro. Medioevo qualcuno barbaro. Dice che Medioevo non c'entra niente con la vendetta. A casa tu, la vendetta, nel senso, con modo di dire, cioè antico, sì, non sì, che il Medioevo, sì. Il periodo. Somari che non siete altro voi, che te ne fa. Somari è una metafora per dire il contrapposto al secolo dei lumi. Stupidi! Siete degli stupidi voi che scrivete compulsivamente. Medioevo non è il Medioevo come periodo storico, è come dire che è contrapposto all'epoca dei lumi. Idioti, idioti, stupidi, c'è gente stupida, mi dà un nervoso. C'è gente che stupida. Dice, dite a Parenzo che il Medioevo... Stupidi, siete stupidi, stupidi, stupidi. Basta, io parlo solo con quelli della Normale di Pisa. Mi sono rotto le palle. È una trasmissione che perché attiriamo tutta questa gentaglia, questi tipisti, questi hooligans? Adesso perché? Ti faccio sentire una cosa. Pigmei della serie... del pensiero, nani, appunto. Nani del pensiero. Della serie L'Integrazione, Forum Integrazione. Oh mamma. Speciale Lores Rom. Lores, la prenderesti tu a casa una Roma a pulire casa? Ma neanche morta piuttosto, guarda. Te la voglio proporre, aspetta. Ma quella brutta befana che ho visto, ma sono tutti ladri, sporchi, puzzoni. Quando ti passi vicino un Roma ti resta sul naso, te lo devi lavare. I peli del naso si impregnano di puzza. È una puzza stantia che non riesce a togliere. Signora qua? Qual è? Non ha mai avuto anche probabilmente una vita sessuale appagante, per quello chiama. A questo punto interviene Sabaeta del campo Rom di Castel Romano, Pontina, Roma. Sabaeta? Vieni. Oh, Sabaeta, ma che stai a dormire? No. Senti, è probabile che si vada a svoltare con Napoletano, Ho buone notizie per te. 5-6 ore a settimana a casa del signor Napoletano, ci andresti a fare la pulizia? Sì, ma quanto mi paga? 10 euro all'ora. 10 euro all'ora. Ma un giorno lavoro tutto il giorno o no? No, diciamo 3 volte a settimana, un paio d'ore. Come 3 volte a settimana? Vabbè, amica mia, però ti sto offrendo un lavoro io. Cioè, fanno 6 per 4, 24, 240 euro al mese, va bene? No. Ma che faccio con questo, scusa? Però, neanche per benzina. Se posso lavorare di più, io posso lavorare. Comunque, ragazzi, no, ma cioè, non c'ha voglia di far cazzo. Ma dai, non è vero, è una io che offri un lavoro però. E questa lo rifiuta. No, però e questa lo rifiuta. Ha fatto due conti, ha detto tra andare, tra prendere la macchina, venire, la benzina, una cosa mi costa di più. Tanto che sta là a Camprom, non paga a cazzo. Magari c'è qualche piccolo portafoglio da fare. No, dai. Ma quale portafoglio da fare adesso? Quello lascia ma stare la che... storia continua. Sabaeta, sì. Sabaeta, a un certo punto parla con Lores al telefono. Voglio lavorare di più. Ok, ho capito. Bene, allora tu faresti, adesso cerco di capire meglio, andresti anche in una, che ne so, un mese a Vicenza, per esempio, a fare un lavoro, un mese a Vicenza? Sì. Dove sta Vicenza? Quanto è da qui? È lontano, in Veneto. Conosci il Veneto tu? No. Per dormire giù tutto. Sì, anche dormire un mese lì, un mese. A casa di una signora che si chiama Lores, una signora che ha bisogno di pulizia in casa. Ma qui a Roma non c'è. Stiamo cercando. Lores, la prenderesti tu? Sabaeta? Ma neanche morta. Ma no, ma perché? Scusa, ma adesso... Ma una zingara? Ma come, ma si... non esiste proprio. Ma è una rom. Che male ti ha fatto? Che male mi ha fatto? Rubano. Ma non ruba. Delinquenti, puzzano. Perché quella signora parla zingara? Perché quella signora si parla così? Ma perché dici zingari? Scusa, che rubano e puzzano. Ma questa signora... Rubano e puzzano e non fanno altro. Sono puzzoni, ladri. Forse sono più pulita di te. Forse sono più pulita di te. Sei una ladra puzzona. No, puzzona sei tu. Senti, Cruciani, io sentirmi offendere da una ladra puzzona non ma ci che ne sto. Sai che saluto. È ladra? Che sai che è ladra? Ma dai, ma che lei ha detto che... Ma stiamo scherzando? Trovi uno zingaro che non ha mai rubato. Nascono ladri, ma stiamo scherzando? Ma italiani non rubano, ladra! Ma ladra! Ladra, ladra! Come no? Bastarda! Gli italiani non rubano, mafiosa! Mafiosa, ladra! Mafiosa, ladra! Mafiosa! Mafiosa! Noi neanche non capiamo cosa è un mafioso! Lei istigava un po' la signora Rom. Veniva sì, un po' istigata dal sottoscritto. Sì, infatti, da un certo punto di vista non ha tutti i torti la signora Rom, che con la sua dignità ha ricordato a quella signora lì, che peraltro dice che non paga le tasse. Sì, cioè, la signora dice, la venetista sì, lì sì, la venetista, rivendica sì. di non voler pagare le tasse allo sì, Stato italiano. Voglia, come no? Rifiuta. Quindi, di cosa stiamo parlando? Sì, sì, meglio la Rom, dici, meglio la Rom della di ma Lores. Tutta la vita, ma sicuramente, dai. Allora, Parenzo, due punti. Meglio la Rom sì, dei Veneti sì, ma non ha detto così. Alla zanzara, sciocca la zanzara. Non ha detto che è meglio la Rom dei Veneti. Meglio i Rom dei Veneti. Beh sì. No, veramente no. Comunque vabbè. Allora ragazzi, dove andiamo? Davide da Udine. Davide da Udine. Ciao Cucciani, ciao Parenzo. Allora, salve, io volevo salve. Intervenire per la questione... Ragazzi, vi segnalo che secondo una statistica uscita oggi, secondo le notizie uscite oggi, dal 1980 al 2015, in Australia, solamente in Australia, poi uno dice la chiesa, tutto quello che volete, dal 1980 al 2015 4.444 persone, poi un numero abbastanza inquietante, tutti quattro, 4.444 persone sono state violentate da sacerdoti cattolici in Australia. 4.444, ripeto, 4.444. Cosa vuol dire questo? Che c'è un buco nero che ancora deve venire fuori. Un buco nero della Chiesa. Il buco nero della Chiesa. Non c'è nessuna metafora in questa. Chi c'era? Davide? Sì, sono io. Vai, Davide, dimmi. Io volevo intervenire sulla questione. Del Alza la voce. Io volevo intervenire sulla questione del Carrefour e dei granchietti. Vai. Perché tu hai detto che non credi che il Carrefour. Sui granchi possono fare magari delle altre porcherie, non lo so, cioè non credo che metta i granchi in situazioni illegali, no, di fuori dalla legge, dai, cioè faranno quello che bisogna fare o no? Ma, guarda, io lavoro nel settore della sicurezza alimentare. Vabbè, ho capito, sai qualcosa su come vengono conservate queste cose? Io ti dico che negli anni loro hanno avuto un sacco di blocchi pesce, sia che fosse... Cioè segnalazioni, lei dice. Sì, ma la cosa generica, però, le cose generiche non mi piacciono. Sai qualcosa in particolare? Vuoi dire che questi qua non fanno... No, lo trovi... lo trovi, basta che vai a cercare in internet, tipo tonno bloccato Carrefour, cose del genere. Ma perché cosa? Vabbè, perché la Carrefour, abbiamo già tanti problemi noi, cioè la Carrefour è una grande azienda, magari ci fa un bucio di quello così, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Cioè io se non ho le cose certe o se non dico quello, ossia se non posso esprimere tutte le opinioni che volete, ma devo essere sicuro di poter dire, devo essere sicuro di poter dire certe cose. Per cui se tu mi dici che non rispettano le regole di controllo alimentare o non so che cosa, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Riguarda che cosa? Spiegami. Allora, un paio d'anni fa una questione legata al tonno in scatola che era pieno di vitamina, che è un indicatore dello stato di conservazione del tonno. E l'anno scorso, due anni fa, la stessa cosa però con il pesce fresco. Ora, vabbè, quello può avvenire in qualunque sì, posto, dai, può avvenire, ma non diciamo stronzate, dai. Però io non so di cosa lei sta parlando, però questo allora, può avvenire i granchi in qualunque... possono essere lì che si muovono oppure no, questo è il punto. Questo sicuramente sì, posto che altrimenti... si muovessero i guanti, i granchi in quell'occasione. Fermi tutti, Vittorio Sgarbi in macchina, fermo lì, Vittorio. Come stai? Beh, a proposito di questa vicenda, ti ricordi che quando ero assessore 10 anni fa, che hai fatto? A Milano accadde una cosa analoga, per cui una protesta dei Verdi indusse un magistrato che non sapeva che cazzo fare della sua inutile vita a sospendere uno spettacolo perché un grande regista argentino mangiava una ragosta in scena. Ah, come no? Allora, certo. Sì, bloccato tutto, in prima pagina del giornale, io andai da Vespa a mostrare il crostaceo lì e dissi che bisognerebbe allora chiudere tutti i ristoranti. Sì, nel ristorante tu vedi la ragosta vivente, la ordini e da viva ti viene nel piatto. Ottimo. Siccome un ristorante è come un teatro, cuochi di rango che sono come attori che fanno il loro spettacolo, non si capisce perché in un ristorante può venire lo spettacolo della ragosta viva e a teatro no. No, ma scusa, ora io voglio dire una cosa. Licia Colò è andata in questo Carrefour a Roma e ha visto dei granchetti che si muovevano. Si è preoccupata, dice che bisogna, che è una cosa gravissima, che bisogna buttarli nel mare, non possono stare lì che si muovono. Ma la gente, quando vede il pesce, vuole vederlo vivo, che poi esala l'ultimo respiro. Certo. È sempre stato così, il pesce fresco. Ah, dai, quello, no? Cioè, tu sei emozionato dall'astice che si muove oppure no? Hai usato la parola giusta, era proprio l'astice. Quello che indusse il magistrato a sospendere lo spettacolo. La seconda giornata andai io, diedi ordine di farlo contro la volontà del magistrato. Non è capitato poi nulla e non mi risulta che abbiano chiuso i ristoranti. Vero è che non si è accorto nessuno, per esempio, che sono morti 130.000 polli a Teramo, sotto la neve, nelle stalle. Ti ho sentito un po' troppo vicino agli animali in questa occasione. No, ti sei preoccupato? Dire che se cominciamo a discutere di tutto, allora che gli animali... Allora dico, mentre per quelli nessuno si è preoccupato, ogni giorno si preoccupa ancora di meno quello che difende gli animali, che vengano uccisi milioni di polli. Sì, no, questo sì, certo. Ma la cosa incredibile è che qualcuno fa carte bollate in tribunale per i granchi, per gli astici, per tutte queste cazzate qui. Lasciateci mangiare gli animali vivi, ce ne sbattiamo i coglioni delle vostre fissazioni mentali. Perché questa gente qua non è che ama gli animali, sono dei pazzi scatenati, cioè che amano solo se stessi. Cioè, questo è il punto: non gliene frega nulla degli animali, non sono vicini agli animali, amano solo perché magari ci guadagnano pure. Hanno le associazioni che prendono soldi pubblici, pubblici. E dunque devono per forza fare queste battaglie. Fermo lì 30... L'astice non è un animale da compagnia che puoi portarti ai giardinetti, ragazzi, al guinzaglio, su, ma insomma, si può avere empatia. Poi a me non me ne frega niente, io non mangio i crostacei, per cui non mi interessa, però voglio dire, perché sei ebreo, è vero. Ma sì, ma non mangio i crostacei. Vittorio, però... 30 secondi, torno, aspetta che c'è la pubblicità, aspetta. Ma come, trovi granchi vivi al supermercato e li vai a buttare a mare? Ma voi siete impazziti, ragazzi. La Zanzara. Con noi, grande ritorno alla Zanzara dopo un po' di tempo, Vittorio Sgarbi in macchina. Allora, c'è stato anche una discussione, Vittorio, Parenzo, incredibile ancora sulla televisione che fa la D'Urso. Cioè ancora in alcuni talk show si parla del caso D'Urso. È una schifezza o no la televisione che fa? Chi se ne fotte? Chi se ne frega? Viola qualche legge? Che cosa fa? Sfrutta i sentimenti, certo, fa la televisione dei sentimenti, porta la gente a piangere. Qual è il problema? Non è che la gente viene costretta con la pistola ad andare in televisione, è una follia questa cosa qua. La Parietti dice che la televisione dello orrore. Vi faccio sentire, Vittorio e David, quello che dice la Parietti sulla D'Urso, la televisione dell'orrore. Ma dai, sentiamo, vai, sentiamo. Non la vediamo mai nei salotti della D'Urso, come mai? Non siamo per niente in buoni rapporti, perché ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che non approvo, anzi disapprovo, ve lo dico con tutto il cuore. Francamente, ti dico, vedere quello, per me è un po' lo scempio della dignità umana, no? Per cui io, siccome non ci riesco a mancare di rispetto alla dignità degli altri, io lo scempio della dignità umana. Vittorio, di qualcosa tu, ti prego, di qualcosa. Ero presente, la trasmissione di Bernardini. Sì, sì. Si chiama. Sì, TV Talk, dai. TV Talk. Sì. Dai, scempio non hai reagito, reagisci qua a questa follia. Non ho reagito perché. Era un altro contesto, sì. No, ma in generale la D'Urso vuole terminare doppie reazioni. Questa qui che dice lei è la reazione di quella che dice, anzi, io non approvo, anzi disapprovo. Ma chi se ne frega di quello che approva e disapprova Parietti? Era quasi comico, cioè disapprova quel cazzo che vuoi, ma non me ne frega un cazzo di quello che tu approvi e disapprovi. Sì, vabbè, quello. L'altra questione era che io ho disapprovato, ho citato violentemente una volta la D'Urso con una litigata furibonda mandandola a cagare, poi mi sono scusato con dei fiori perché vabbè, ma quello va bene, quello può succedere, dai. No, capisco benissimo che uno possa non amarla, però devo dire che mi ha fatto un certo effetto perché ha invitato 6 o 7 persone domenica scorsa, c'ero anch'io, per la questione dell'hotel Rigopiano. Sì, sì. E ha fatto parlare Alessio, il padre di quel ragazzo che sì, è morto, come no, e sì. Ha interrogato con una violenza come nessun PM poteva fare. Il sindaco si scusava, diceva l'abbraccio, no, non voglio il suo abbraccio. In realtà aveva ragione Alessio, ma faceva una pena incredibile quel sindaco che nella sua inerzia aveva mancato di fare alcune cose che potevano salvare la vita. E devo dire che è stata una trasmissione formidabile. Noi eravamo quasi inutili, sì, perché aveva 6 ospiti. Sì, ma è la verità. E il punto è che sì, qualche volta può perfino riuscire a fare una comunicazione, quella cosa che non l'ha fatta nessuno. Sì, ma quando la Parietti, esatto, bravo, quando la Parietti dice fa scempio della dignità umana, la Parietti lo dice, la Parietti, vabbè, che la c'è, Parietti, questo non vuol dire niente, dai, questo su, non ragazzi, vuol dire ma niente. Ha fatto delle trasmissioni in cui chiaramente è una cosa importante, ma giustamente era anche mostrare il suo corpo. Ma, no, e ma, poi si fa, ma come no, ma io ma dico, quella è una sua libera scelta, lei ma parlava capito, dei contenuti, ma poi parla di scempio della dignità umana, dai, ma sì, ma, su. Quella, ma proprio tu però, ma alle volte dici dei paradossi assoluti, c'è uno che dispone del proprio corpo, ma fa benissimo, infatti ho detto che fa però benissimo. Non c'è una contraddizione tra disporre del proprio corpo come meglio. Vabbè, uno Vittorio, crede, intervieni tu per ma favore, no perché... ma su questo mi dà la ragione, no, perché vabbè, non c'è sono discorsi. No, il fatto che quello che è il dato vero della D'Urso è che lei tra realtà e finzione non distingue, quindi il suo è un teatro della vita, anche la realtà tragica per lei diventa occasione per creare uno spettacolo del dolore, e questo può indignare alcuni, però in quel caso lì era talmente corrispondente il vero e l'azione in cui questo diventava un PM e incalzava il povero sindaco, era perfino un'azione sadica di una violenza potente e meravigliosa, qualcosa che va benissimo nel cioè nostro temperamento. Secondo te la D'Urso è sadica? Alla fine è sadica? Credo che sia profondamente sadica. Sei profondamente, cioè con gli uomini, sì, per esempio, sì, è sadica, la vedi molto sadica. È sadica, ma è sadica in generale. Cioè, cioè in realtà, comanda, cioè, dici un uomo è sottomesso a lei, cioè un uomo per esempio è sottomesso. Beh, questo potrebbe essere, se sì, potrebbe essere un rapporto, ma nella televisione lei evidenzia l'elemento negativo di cui si compiace che esista. Cioè, per esempio, perché non ha mai un fidanzato che si vede? Secondo me è appunto perché gli uomini un po' si spaventano di questo duo, di questo suo essere un po' maschile, no? Di questo suo essere un po'... Si spaventano anche del, diciamo, di quello che io, anche per lei, già immagino lo ius ultime noctis. Cioè? Quello qui, io sai che ho rinunciato allo ius primae noctis, che era un mio diritto naturale, sì, perché le ragazze ormai la danno così presto che è inutile perdere tempo. Allora ho inaugurato lo ius ultime noctis. Sì, sì, vuoi andare? Illustrare. Sì, esatto. E quindi lei si avvia ormai verso quel momento inesorabile. Cioè tu la vuoi colpire, detto con massimo rispetto delle autorità civili, politica e militare, la vuoi colpire nel momento in cui proprio non c'è più nessuno? Volevo fare così, sì. Volevi fare... vuoi fare così. Del nostro comitato. Senti, a proposito della Raggi, ma hai sentito che ha detto ho l'approvazione di Grillo e di Casaleggio? Appunto. Ho l'approvazione... L'ho detto a Beppe! Lei dice solo quello, cioè qualunque cosa capiti... Sì, vado avanti perché ho sentito Grillo e Casaleggio, sì, ma come? Devi sentire i romani? Devi sentire i romani, non Grillo no, e Casaleggio? Tu lo sai che io ero un giorno con Parento sì, e abbiamo chiamato Grillo. È vero. E Grillo mi ha detto, cioè abbiamo la registrazione, possiamo farla anche sentire. Certo. Io credo che lui possa benissimo, io, l'abbiamo registrata apposta. Ha detto: guarda, Vittorio, sì, va bene, noi dobbiamo difendere la Raggi, ma è una depensante. È una totale. Prima che. È una depensante. Certo. È una povera cretina depensante. La vorrei mollare, ma se la mollo casca tutto. Perché. Quindi lui, in fondo, è malafede, ha inventato perfino la legge per cui per tutti vale l'essere indagati. Esatto. L'essere, sì. Meno che per lei. L'onestà. Lei è una traffichina che è profondamente priva di onestà. Perché l'assicurazione, il suo stipendio, quell'altro, il fratello. Io pensavo fosse innocente, invece no, è una che sembra la vista Teresa, ma in realtà ha fatto delle cose che possono essere sì, minori, delle ma sono cazzate, molto dai. Peggio di quelle di Marino, cioè sono proprio degli atti illegali, profondamente illegali. Cioè la promozione di quello, ma sono enorme, e lui lo sa. Io credo che possa mandare la registrazione, Parenzo. No, ma addirittura, cioè, ma questa qua è una cosa clamorosa, scusa, ci stai dicendo che Grillo ha detto una volta che la Raggi è una depensante. Ha detto, no, ma ha detto poco prima di fare il suo nuovo editto, no? Quello sì. Per cui loro sono innocenti, cioè tutti sono colpevoli. Io sono pregiudicato, ho fatto. E che cosa ti ha detto? Che la mia vicenda è una condanna per non aver preso lo stipendio. Quindi io lì corrono solo danari, quello prende di più, quell'altro prende lo stipendio più alto, viene assunto il fratello, quello va bene. Quello magari sarà. Ora, tutto questo lui, prima di fare, ha capito che se lei cade, perde Grillo. Come ha perso il PD con la caduta per di... cui ha detto che è una depensante, tenerla in piedi come tenevano in piedi Brezhnev con dei figli eletti. Lei non è più viva, è un automa, no? La tengono viva perché è un'eroina, ha fatto 43 cose giuste, te ne sei accorto? Ma ha fatto solo 43 cazzate. A noi ha detto: Vittorio è una totale depensante, una cretina assoluta, è il modello perfetto per quello che io voglio al potere. Però purtroppo e l'ha deviata anche da Marra e dagli altri, non poteva controllare. Lui vuole controllare e dominare questi depensanti, questi minus abentes, quelli che non hanno cervello. L'hai visto quando balla perché vuol festeggiare come se fosse una ragazza che va alla discoteca di pomeriggio e ha i pantaloni tutti rotti? Sì. Il sindaco di Roma va in giro con i pantaloni rotti, è una cosa proprio, l'ha trovata apposta. Solo che è scappata di mano e lui per riprenderla finge che ce l'ha detto. Aspetta un attimo, aspetta che c'è la pubblicità, poi torniamo. Aspetta, mo ti richiamiamo se ti stacchi. La Zanzara. Allora ragazzi, riprendiamo. Caro Parenzo, la Carrefour, ha mandato una precisazione a questa ottimo, in diretta, spettabile trasmissione. Bene, è ascoltata anche nella grande distribuzione. Beh, certamente. Allora, subito chiudere un accordo con gli amici da Carrefour per trasmettere in diretta in tutti i supermercati d'Italia. Beh, no, la trasmissione della Zanzara, le royalties di tale verranno intestate sul conto corrente di David Parenzo e Giuseppe Cruciani, IBAN no? Beh, magari fosse così. E allora perché no? Cosa legge? Adesso vedrai, fammi trattare. Oh, lui legge la precisazione. No. Ma non legge, non le combatti. Sciocca la Zanzara. Cruciani attacca Carrefour. No, ma non attacco per niente Carrefour. Che aspetta, fammi leggere. Allora, la precisazione. Allora, non è la precisazione. Carrefour dice in sostanza che ha commesso un errore perché quei granchi non andavano messi nel cellophane, ma dovevano vivi essere tenuti vivi ma all'aperto, diciamo all'aperto, senza essere messi nel cellophane. Dunque farà un'indagine interna. Beh, vedi però, un'indagine interna. Ottimo. Io se fossi uno di questi mi ribellerei a queste puttanate. Mi pare i granchi non vanno tenuti dentro il cielo, fanno che fanno, soffocano. Ma loro sono attenti ai consumatori, evidentemente. Sì, questa Carrefour saranno sono grandi aziende. Con noi Vittorio Sgarbi, macchina. Vittorio, eccoci qua. Eccolo qui. Allora, però io andrei resterei sulla questione Raggi. Appunto, dicevo, adesso bisogna che io ho fatto registrare la conversazione che abbiamo fatto con Parenzo. È saltato tutto. Io non so quale conversazione, non mi ricordo adesso nel dettaglio. Questa te lo ricordi benissimo, solo che non la vuoi rendere nota. Mi incastra adesso. Ti ha incastrato in una roba. Cioè, rigamatelo, vai. Ma io non so niente. Adesso. perché Parenzo? Ma chi se ne frega? L'imbarazzo di Parenzo di fronte alla rivelazione sgarbiana sulla Raggi. Ma no, io però del merito, non è che mi ricordo il dettaglio. Ti ricordi benissimo, te lo dico io, ti ricordi benissimo, te lo dico io, conoscendoti. No, io non sapevo nulla, ma non sapevo nulla di questa cosa qua. Tu per tenerti buono Grillo, non vuoi rivelare questa cosa qua. Ma non mi pare di tenermi buono. Non ti conoscessi, Secondo me, ma perché mi tengo buono Vittorio, allora no, io ho sentito una cosa bellissima sull'onestà. Tu dici, meglio Craxi dei Grillini, in sostanza, meglio Craxi dei Grillini, posto che Craxi si possa e si però può anche Craxi sappiamo poco, perché non abbiamo ancora avuto la certezza di quello che ha rubato, secondo le teorie dei Pietro. Pare che si sia portato all'estero un po' di quattrini, secondo lei. Non secondo... sono venuti mai fuori. Comunque, in ogni caso, quello è un dato diverso. La onestà per un politico è l'ultimo dei requisiti, perché è il primo per ogni cittadino. Ma un politico che millanti di essere onesto e non sappia fare assolutamente nulla è disonestissimo. Cioè, secondo te la Raggi è il massimo della disonestà? È il massimo della disonestà. Si può immaginare uno che sta lì da 8 mesi, prende lo stipendio. Andato a prendere lo stipendio. Sì. Ti pare che abbia fatto qualcosa per Roma? Dice 43 cose, dicono 43 cose. Sì, appunto, vuole sapere quali e come. Ora, in tutto questo, la incapacità di avere una visione è esattamente la disonestà del politico. Il politico che non ha una sola idea e prende uno stipendio è un ladro. Quindi il dato è molto semplice. Poi il tema della corruzione è un tema parallelo, cioè tu hai un mondo in cui ci sono una quantità di affari giganteschi e all'epoca gli finanziamenti illeciti erano il modo per cui la politica veniva pagata. Sì, vabbè, però riduciamo la questione a un paragone molto semplice. Cioè tu dici meglio, che ne so, quelli condannati, i Cirino Pomicino di un Grillino, meglio... Ma di un Grillino, sai, il Grillino in sé, ce ne sono, soprattutto quelli che sono andati via, bravissimi. Sono persone, lo stesso Pizzarotti è bravo, ha dimostrato di essere. No, però tu dici meglio della Raggi, meglio. Cioè, tu dici un politico che ha rubato, però ha fatto delle cose molto meglio della Raggi. Beh, ovviamente, no, perché il suo compito è di fare delle cose, non è di rappresentarti inerte. No, a me fa impazzire la cosa che chiede sempre, come dire, l'approvazione. L'approvazione è una cosa. A Casaleggio e a Grillo. Cioè, ho parlato tutto a posto, ho parlato con Grillo e Casaleggio. Ma che cazzo c'entrano Grillo e Casaleggio con Roma? Non è che. È inaudito, sì. Non è che il sindaco, non è che Sala chiede l'approvazione per quanto sia, come dire, in qualche modo il suo punto di riferimento fosse Renzi, non è che dice ho chiesto l'approvazione, oppure che ne so, tipo lo stesso Nardella, forse Nardella ha un rapporto con Renzi più stretto, però un altro sindaco non è ho chiesto mi hanno dato l'approvazione. Non puoi avere al potere un minore, lei è un minore, un minorato. Ah, tu dici un minore, un minorato. È un minore, cioè... Il minore è uno che non è in grado di agire se non subordinato. Però scusa, padrone. Da questo punto di vista Ambrangiolini meglio, perché Ambrangiolini almeno, come dire, era maggiorenne. Era un accordo fra i due, però andava in una televisione privata. Ma tu hai una che viene eletta dai cittadini liberamente, va lì ed è a tal punto minorata che non fa un passo se non si consulta con il suo guru. È una cosa da setta. È molto bella, peggio della massoneria, peggio di tutto. Cioè, loro sono riusciti a mandare al governo una depensante assoluta, la quale non agisce con le proprie capacità. Però dicono meglio di quello che c'era prima, che mangiavano a destra a manca, cioè meglio di tutto quanto, perché dicono quelli prima erano sicuramente peggio. Il ragionamento è questo, no? Quelli prima erano peggio, la mafia capitale, Ostia. Ma non c'era niente, quelli di prima erano Marino e poi Beltroni e Rutelli, che sono stati abbastanza alti. Alemanno, poverino, non aveva, però non è che Alemanno dovesse rispondere a nessuno. Senti, uno può anche essere non in sé, però lo deve essere per sé. Se tu hai un altro, è una forma, sai come si chiama? Oltre a plagio, cioè, lei è plagiata, dominata e plagiata. È una cosa, una forma di stregoneria. Se noi abbiamo una indemoniata che è sindaco di Roma, è il massimo, e dentro il suo demonio si chiama Grillo, e lei governa. Consultandosi con Grillo. Cioè, basta che quello spegni la luce, è finita. Cioè, se quello dice basta, adesso basta, esco dal tuo corpo e tu ti dissolvi. Dal tuo blog. Ti dissolvi, cioè, quasi affascinante questa cosa qua. Senti, ma secondo te che rapporto c'ha con questi qua che gli danno le polizze? Cioè, un rapporto di tipo, che ne so, sexual? No, dicono di no. Rapporto di che genere? Con chi dici? Con questo Romeo, eccetera. Beh, vabbè, se uno, scusa una cosa, ma che rapporto può essere se non un rapporto, diciamo, orale? Che c'è, che sarà orale o non sarà orale? È un rapporto orale. Ma che orale, cioè lei in sostanza sì, diventa la beneficiaria di un'assicurazione che io non credo che secondo me è un'assicurazione sulla vita di lei, sulla vita di lui. Di lui. Cioè, appunto, lui muore e i soldi vanno a lei. Bravo, è molto shakespeariano come il suo nome, peraltro, Romeo. È shakespeariano, perché Romeo, bellissimo. E perché Romeo, Romeo dà tutto quello che ha a una che non è Giulietta. Ergo lei è Giulietta. E cosa faceva Giulietta a Romeo? Che faceva? Che si apre la fascia. E che faceva? Niente, non faceva niente, perché una stava sul balcone e l'altro orale, sotto. No? Si chiamano rapporti orali. Parlavano. Senti, molto. Ultima cosa, ma è vero che ti cambi di poco le mutande? In questo sono molto vicino a te, cioè sono molto... No, ho detto che... Beh, questa è bellissima. Questa maglietta cambiasse tutti i giorni. Tu ti cambi le mutande quando vedi quel filettino di merda che abbiamo già commentato, per cui le mutande sono sporche, sono pulite, che te le devi cambiare. Bravo, sì, ma questo qua è fondamentale, ma scusa, Parenzo. Ma è semplicissimo. Perché, ragazzi miei, non voglio entrare nel merito, ma... posso dire di più? Dimmi di più. E anche Parenzo fa così, perché Parenzo, essendo avaro... No, ma assolutamente. No, non è tutto altro. Toglie le mutande solo quando c'è quel filettino di merda. Ma va, figurate. Scusa, non ho capito, tu per quanti giorni te le porti le mutande, Vittorio? Penso li può portare 2 giorni. Beh, no, ma due giorni è poco. Sono pochi, appunto. Io ho visto una volta, perché in realtà la vita itinerante di Vittorio lo porta spesso a cagare nei posti più impensabili. Un giorno, una notte, a un certo punto, eravamo a Padova, e mi è andato a casa di una persona che gli ha fatto vedere una casa, una mia amica, se non sbaglio, la quale, a un certo punto, lui ha visto la casa, però non gli fregava niente, doveva cagare. E allora mi dai il cesso, per favore, che devo cagare, che è Vittorio che è caduto, maledetto, proprio nel più, sul momento più bello in cui voleva raccontare della merda, la vita vera, Vittorio che caga. Ciao ragazzi, io sono etero, ma sono frocio della zanzara. La zanzara. Allora, grande ritorno alla zanzara di Vittorio Sgarbi, che racconta quante volte si cambia le mutande. Intanto mi scrive Simone Di Stefano, che è un signore di Casa Pound, come voi ben sapete. Sì, come no, Simone Di Stefano. Di Stefano mi scrive, io rendo pubblico questo messaggio che lui mi scrive, chiede un intervento del professor Sgarbi per salvare il busto di bronzo di Mussolini. Un attimo, che qui cosa... Busto di bronzo di Mussolini dove? Che si trova adesso, aspetta perché l'ho cancellato, appena visto Mussolini ho subito cancellato ovviamente il messaggio. Queste cose fondamentali, scusa, busto di bronzo di Mussolini, adesso vi dico dove Simone Di Stefano, ecco, avevo cancellato Mussolini ma appena riscritto, eccolo qua. Vabbè, uno prova ad accennare un discorso culturale, il tuo collega parte con le mutande sporche. Vabbè, siete senza speranza. Chi è? Simone Di Stefano. Lui mi parla di discorso culturale a me, Simone Di Stefano di Casa Pound. Va però benissimo, mi ha scritto l'intervento di Sgarbi per il busto di Mussolini a Bergamo, mi pare. Ma che cos'è sto busto? Figuriamoci, bisogna... C'è Vittorio dice un signore che è il capo di Casa Pound che bisogna proteggere, non so quale opera, un busto di Mussolini a Bergamo, non so che cazzo è. Dove sta, c'è roba. In corso. Ma certamente è capitato anche recentemente a Bolzano, che siccome c'era un'immagine di cavallo, vogliono mettere sotto un LED per dire nessuno deve essere nominato da nessun altro. Dico, ma chi cazzo sapeva che ci fosse? C'è la censura, una cosa, ma è ridicolo, è evidente l'esistenza. Allora in questo caso la minaccia di censura, forse a Bolzano si trova davanti a una esaltazione. Cioè, più tu sei davanti a una cosa minacciata, più senti che essa esiste. Quindi bisogna insistere sulla minaccia. Bisogna far sentire che non c'è tolleranza neanche per la morte. Ma perché? Che vogliono fare? Scusa, Davide, con questa... non lo so. Davide sa tutto. Che cosa bisogna fare? Mi ha scritto, poi io ho visto Mussolini, subito ho cancellato il mio telefonino perché mi fa ribrezzo. Però solo a favore, anch'io, io reputo una stupidaggine. Non bisogna aver paura. Ma no, ma quando la Boldrini disse quella sciocchezza di togliere la scritta Dux, bravo. Ma mi sembra la Boldrini, certo, che oggi ha detto l'altro giorno, che appartiene alla nostra storia. Ma ti pare che Sgarbi la Boldrini fa il presidente della Camera e Sgarbi non ha fatto il presidente della Camera? No, ti pare normale una cosa del genere? D'accordo. Che la Boldrini fa il presidente della Camera e Vittorio non sta nemmeno in Parlamento? Ti pare normale una cosa di questo tipo? È un paese normale? È un paese normale? Non c'è dubbio. La Boldrini è un plurale maschile, bisogna chiamarla la Boldrina. Scusami. Ha detto come che d'altra parte, da quando lei ha parlato, il fico si chiama la fica. Non è possibile che tu abbia il melo, la mela, per la pera, l'arancio, l'arancia, e il fico, no, il fico, la fica, come dice la Boldrini. Sì, però il fico, tu dici al femminile va declinato il fico, dici, no? È talmente evidente, non è che possiamo lasciare sia questa ingiustizia nella natura. Il fico, no, il fico, la fica. Dammi la fica. La mela e la pera. Sì, scusa. Alcuni dicono, la Boldrini stessa dice che c'è troppo odio su Facebook. Questo è vero. Io voglio fare, però, siccome la Boldrini dice questo, io voglio fare un'esaltazione dell'odio, ti giuro. Il diritto all'odio. Cioè, non è possibile, non è diritto, che la Boldrini dice il problema maggiore è l'odio. Ma non è vero. L'odio c'è sempre stato. Sì, l'odio non puoi eliminare l'odio. È come voler eliminare l'acqua. È come voler eliminare il cielo. Dice, voglio eliminare l'odio, ma non ci sarebbe una società senza odio. Purtroppo nelle società c'è anche l'odio, come c'è la prostituzione, come c'è, che cazzo ne so, tante altre cose. Ma vuoi non avere ci un esempio? Vuoi avere un esempio? Dimmi. Parenzo odia il nazismo. Esatto. Odi i fascisti, odi i nazisti. Beh, odio ciò che è contro la democrazia. Sicuramente. Vabbè, ma che vuol dire? Comunque esprimi odio. Ma è normale che sia no, così. No, esprimo odio, esprimo ribrezzo. Ma è una stupidaggine in natura. Dice, voglio il maggiore problema è l'odio. Ma che cazzo dici? L'odio esisterà sempre a prescindere da quello che pensa la Boldrini. È una puttana, voglio eliminare l'odio su Facebook. Però è anche vero che odiare la Boldrini è troppo. Cioè, è una concessione troppo alta. In fondo ha ragione lei. Non potete odiarvi, perché odiare una cosa che c'è così poco e che è al limite dell'inesistenza è eccessivo. Cioè, la commissione sull'odio e il razzismo vuole fare. La commissione sull'odio e il razzismo. Amico mio, la commissione sull'odio e il razzismo. Ma di cosa stiamo parlando? La commissione parlamentare sull'odio. Di cosa cazzo devono parlare? Dai. La commissione non serve a niente. Basta che quando uno ti dice... ma muori cagna, devi essere stuprata, beh, io quello lì lo denuncio immediatamente. Ma quella è un'altra cosa. Hai visto gli insulti e l'odio che le hanno vomitato addosso? Denunci quello... le persone, ma chi se ne frega? Il presidente della Camera non dovrebbe guardare quello che scrivono di lei su Facebook, se ne dovrebbe fottere di quello che scrivono di lei su Facebook. Se si mette a guardare Facebook è una cazzata che serve solo a farle pubblicità. Questo è il punto fondamentale. Siccome vive dell'odio degli altri, se gli altri non la odiassero, di che cosa parlerebbe la Boldrini? Di nulla. Dunque vive dell'odio degli altri. C'è tutta una contraddizione. Lei non vuole che ci sia odio, ma vive dell'odio. Non è male questa sgarbia, Vittorio, non è male questa. Sono... è buona. D'altra parte è anche vero che se c'è un rappresentante che non deve esprimere un parere proprio è chi rappresenta tutti i deputati. Perché sicuramente lei rappresenta anche Salvini, rappresenta anche la Lega. Sì, certo. Quindi il Presidente della Camera deve avere un'opinione interiormente convinta, ma non la può esprimere. Senti una cosa, un'ultima cosa, i calzini invece quante volte te li cambi? I calzini, beh, fino a che non si sente quel fettore dei piedi che Brucia a pensare di cambiare. Quindi il limite delle cose è questo. Sì, il limite delle cose. Senti il fettore, vuol dire che sono puliti. Cioè anche una settimana li puoi tenere, dici, i calzini? Ma sì, A me pare una porcheria, ragazzi, belli. E le camicie? Le camicie abbiamo già detto che durano un giorno, due giorni. Insomma. Due giorni. Comunque, i calzini fino a quando non senti il fedore, le mutande fino a quando non vedi il filetto di merda. E le cagate che fai tu sono abbastanza frequenti, soprattutto. Sono molto frequenti. E soprattutto ovunque tu sia, diciamo, dov'è il posto più incredibile dove hai cagato? Diciamo? Una volta te la sei fatta addosso in macchina? Sì. Macchina no, mi fermo prima, insomma, cerco di trattenermi fino al momento. Io ho il problema che sono un uomo felice perché mi libero molto della merda. Cioè, in che senso? Quindi sono un grande cacatore, io cacco anche 8-9 volte al giorno. No, come 8-9 volte al giorno? Puro, nobile, così. Ma come puoi dire? Tu caghi 8-9 volte al giorno? Cioè, sei un fenomeno quasi da studiare. Sì, un evacuatore, Sgarbi il grande cagatore. Cioè, caghi ovunque. Cioè, per esempio, hai chiesto in qualche posto incredibile, in qualche casa anche nobiliare, in qualche casa particolare, devo cagare. Non c'è... Hai violato qualche bagno famoso? Violato qualche bagno? Quale bagno famoso hai violato? Ma il bagno famoso come il bagno ignoto. Che ne so, al Quirinale, alla Presidenza del Consiglio. Dovunque. Cioè, hai cagato anche al Quirinale? Vabbè, quello che male c'è. Andavo a trovare Cossiga. Vabbè, allora, non mi pare sia niente di male quello. Ho cagato anche qui. Ciao Vittorio, devo chiudere purtroppo. Stasera mi è piaciuto molto. Ragazzi, ciao, abbraccio. La intercettazione di Grillo. Ecco, questo è importante. Allora, Parenzo e Sgarbi hanno in mano una cosa che Parenzo non ha mai voluto rivelare. Questo lo diciamo anche perché mi stanno scrivendo. È praticamente un audio di Grillo. Parenzo deve tirarlo fuori. Chi cazzo ce l'ha sto audio? Tu, Parenzo, chi ce l'ha? Ce l'avrebbe Parenzo, dunque lo mettiamo in mezzo. In cui Grillo dice delle cose incredibili sulla Raggi. È una cretina, Grillo. Ma dai. Ciao. Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. fermi tutti un attimo, un sondaggio, fermi tutti. Spassionatamente, sinceramente, senza nulla. Si stanno attaccando i cani, aspetta, fermo tutto. Allora, avviciniamoci tutti quanti qua in cerchio, venite tutti quanti vicino a me. Volontario. Secondo voi, spassionatamente e sinceramente, scopare 4-5 volte alla settimana è tanto o poco? Pochissimo. Pochissimo. Tu? Dipende se c'è una compagnia. Pochissimo. Pizza. Qua dicono che è tutti pochissimo, quindi sei te che stai messo male, Crucia, mi dispiace tanto. Allora, il dibattito, come avete sentito, è abbastanza forte, caro Parenzo, cioè la media, è un dibattito antico questa qua, però mi sorprende molto che le persone sostengano che farlo 4-5 volte a settimana è una roba normale, cioè sarò io non l'ho mai fatto 4-5 volte a settimana, nemmeno ai bei tempi, nemmeno quando ero magari più giovane. Cioè sì, posso essere arrivati in alcuni casi eccezionalmente, ma non come cosa costante, capito? Come cosa... Non lo so, questo... Ma sì, vabbè, ma questo tu, può... quando ci cavate... No, io sto parlando di... Non ti preoccupare, non ti metto in mezzo a voglio dire... A questo dibattito prestazionale, come dire. Però devo dirti una cosa. Beh, che devo dire una cosa a Mauro da Mantova. Allora, caro Mauro da Mantova, voglio comunicarti questa cosa. Che non metterai mai più piede in questa radio. Oh. Fino a quando? Aspetta, fino a quando? Mamma mia, fermate le rotative del giornale. No, ma adesso ti spiego perché. Fino a quando? Non ti pentirai delle cazzate che vai dicendo, non le cazzate, le tue teorie su De Benedetti, sulle lobby ebraiche, quello non mi interessa, posso anche sentirle con una certa, con un certo interesse, diciamo, no? Al contrario di Parenzo, io sono molto più aperto rispetto a Parenzo su queste cose qui. Perché fai questo giochetto di andare da quei disgraziati di Radio Padania Libera? Ad attaccarci, a fare i tuoi giochettini di mandarmi gli audio. Chi se ne frega? Donato da Varese tutta la vita. Donato è un signore, tu sei un imbecille. Siamo al top. E adesso, giustamente, appunto, mi scrive una mia amica Sara, di cui non rivelerò il cognome. Che diceva: manco quando era giovane, Cruciani. Ma dai, ma adesso che cazzo ne sa questa tua amica? No, ma scherzo, l'hai detto tu adesso? No, ho detto semplicemente che può succedere. Sara, cioè, se... Non dico il cognome. Ragazzi, questa mia amica mi scrive: manco quando era giovane, Cruciani, se la smettessi di sgozzare Capretti. Allora, ragazzi, non è una costante. Può succedere che magari Gianrusso per due mesi. L'audio. Non esiste nessuna. No, esiste l'audio. Era una butade di sgarbi. No, non che butade, ma non chiamato... scrivetemi. Ma non che butade? No, nessun audio. Sono pronto a dare il mio telefonino a chiunque, alla procura, ai 5 Stelle, a chi è. Non c'è. No, a parte che butade non è vero, perché mi ha scritto che è tutto vero. Magari non ce l'hai materialmente perché l'hai eliminato, ma l'audio c'era. La telefonata c'è stata. Tu non vuoi dirlo, ma la telefonata con Grillo. Ma che motivo avrei? Sgarbi, Grillo, Parenzo. Telefonata shock. Telefonata shock. Due punti. La Raggi è una depensante, una cretina. Così è successo. Fermi tutti, però. Il peggio di Radio Padania. Via. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Ma la gente italiana si è dimenticata che il complotto del 2011 fa parte Monti, che è il cognato di De Benedetti, Prodi e la Napolitano e la magistratura democratica, se la sono dimenticate. Questi qua sono i referenti delle lobby ebraiche americane: Goldman Sachs, Prodi, JP Morgan, De Benedetti, Morgan Stanley, Monti. Questi qua non hanno altro che a speculare. Mauro da Mantova impazza a Radio Padania. Vai, continua che non ti sente nessuno. Mauro, continua. Continua, vai. Che non conti un cazzo lì, vai. Beh, 1.200 euro al mese. Passi a 300-500 euro al mese. Sono cazzi tuoi. Ma tu non puoi andare contro le lobby ebraiche, economico ebraiche. Perché altrimenti cosa succede? Passi per un delinquente, capisci? Questo è. La gente si deve svegliare. La mia bella e libera, guardavano. Gli ebrei non sono vittime. Ancora hanno innescato stas- tre guerre mamma mondiali. Ma mi risulta che hanno perso 6 milioni di ebrei. Però, cioè, ci sono stati 6 milioni di morti. Ecco, poi, hanno innescato tre guerre. No, ma va tutto bene, capito? Non va tutto va bene. Tutto, no, ma va anche tutto bene. Ma è tutto. Te lo dico poi senza però sconforto. Che mi fa il culo, che vuole fare la battaglia con me. Caro Mauro, amico mio, ti ho fatto vivere una seconda vita, adesso mi rompi i coglioni, su. Sei bannato da questa trasmissione, non me ne frega un cazzo, vai a Radio Padania Libera. Me ne fotto, non ti sente nessuno, non conti un cazzo, non conti nulla, niente. Viva Donato! Gli ebrei sono passati per poverini vittime. Ma quali vittime? Hanno innescato tre guerre mondiali. Ma quali vittime? Loro le hanno innescate. Prima, seconda, e questa terza guerra mondiale del 2001, c'è una guerra mediatica e una guerra economica, ma sempre guerra, capisci? La gente si deve svegliare. Servi di Roma fuori. La gente si deve svegliare, vabbè ragazzi. Franco da Milano, vai Franco. Aiuto, aiuto. Franco. Pronto. Vai, vai, vai. Ciao. Dai. Pronto? Sì, dimmi, dimmi. Ah, ciao, senti, riguardo quello lì che diceva che è un ambiente fascista, un ambiente di destra, quello del porno. Sì, sì, sì. Il professore Galimberti. Galimberti, allora? Galimberti. Sì, ma ragazzi, ma perché uno si deve fare queste pippe mentali? La pornografia è fascista? Ma che cazzo? No, vuol dire? Ha detto guardi, anche altro, allora, mica guardi, solo quello. Io ci ho lavorato in passato. Dammi del tu, dammi che hai fatto nel porno tu. Vabbè, sono una persona educata. Io ho ma che vuol dire? Dammi del tu, non è che significa che mi devi dire che sono uno stronzo. Non abbiamo vabbè, non mi dare del tu. Vabbè, che vuol dire? Sì, bravo, ragione. Dammi del voi, io ti do del tu, poi fai come cazzo ti pare. Perfetto, allora no, beh, io ho lavorato per un po' di tempo nel mondo del porno. Allora posso assicurare che è un ambiente tutt'altro che di destra. Ditelo a quello lì. Sì, ma... anzi, ma io non so cosa vuol dire quando lui no, dice... diceva che concettualmente, ma che la vuol dire? La gente non capisce un cazzo, la gente dice... se fa le seghe davanti ai porno e se ne fotte di quello che dice Galimberti. Questo ecco è il punto. Con tutto rispetto, io però Galimberti ci sono anche i porno. No, guarda, ci sono anche i porno. Purtroppo non ci ho lavorato. Purtroppo ho lavorato su piccole produzioni molto, molto basse, tipo non proprio come Alex Magni, ma siamo a quei livelli lì. Però ci sono. Sì, purtroppo io sono entrato perché speravo di avere un portfolio di donne da cacciare, perché in che senso, era scusa, un portfolio di donne da cacciare? Speravo che dopo il lavoro, no, di rimorchiarne qualcuna, ma alla fine no, troppo... avrei trombato qualche volta se lavoravi in quel mondo, scusa. No, mi sono fatto le seghe, poi ho trovato una e ci siamo messi insieme, però vabbè. Io speravo di avere una. Ho lavorato nel porno, ma non ho mai scopato una pornostar, è così. Facevo il cameraman io. Ma non ha mai scopato una pornostar? No, a parte che non tutte sono star, ci sono la maggior parte bravo. Sono attrici. Porno star o presunte tali. Esatto, perché poi molte tra l'altro vanno per pagarsi gli studi ufficialmente, poi alla fine continuano su quella cosa lì perché è più facile aprire le gambe che vabbè, comunque questo non c'entra, ma è un ambiente proprio molto progressista. Io vorrei consigliare anche tu un ambiente progressista, ma non darei definizioni. Voglio consigliare al signor Galimberti di vedere il film Mamma. Okay. Del maestro Silvio Bandinelli, che ora questo è ottimo, è maestro Bandinelli. Lo conosci il maestro Bandinelli? Parenzo, lo conosci? Beh, Silvio Bandinelli. Spesso no. So che ascolta la Zanzara, signor Bandinelli. Bandinelli, non so se è il suo vero nome. Vero nome. No, io conosco Sorrentino. Francesco, è il vero nome o no? Bandinelli? Eh? È il vero nome Bandinelli o no? Silvio Bandinelli, cercate. Sì, ma no, è il suo vero nome o no? No, il mio nome è Franco. No, amico mio, Bandinelli è il suo vero nome o no? Ah, questo non lo so. Penso comunque, sì. Vabbè, ragazzi, andate a vedere non Luchino Visconti, non Sorrentino, Silvio Sorrentino, Bandinelli. Ottimo. Le produzioni del signor Silvio Bandinelli. Beh, cosa fa il signor Bandinelli? Vedo la biografia. Recita qualche titolo. Fermi tutti, che torniamo. Cruciani, hai rotto il cazzo. Sei diventato vecchio e noioso. Fuori dai coglioni. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Bibbia. biblioteca dell'Università di Friburgo, Svizzera. Mi siedo di fianco a una ragazza bellissima. Dopo poco inizio ad odorare un leggero fetore. Subito lo attribuisco alle mie mutande ormai vecchie di 3 giorni. Ma poi mi accorgo che si è tolta le scarpe. Allora guardo i suoi calzini bianchi. Inspiro pieni i polmoni e godo. Francesco da Bari, andiamo, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta. Francesco, vai. Buonasera. Dimmi, dimmi, buonasera. Dimmi, vai. Senti, volevo solo farti una piccola, così, una piccola riflessione, sì, sull'omicidio, sì. A Vasto. Vai. Permesso che non lo giustifico, sì. La vendetta, e quindi va giudicata secondo legge. Meno male. Mi permetto solo di dire, se è vero. No, avete sentito intanto, scusami se ti interrompo, avete sentito intanto le ultime cose, no? Cioè adesso gli avvocati di Lello, che è quello, come si dice in termine tecnico, del Dilello, no? Come direbbero, sì, i poliziotti, del Dilello, del bravo, Dilello. Sì. Gli avvocati del Dilello stanno cercando di far passare, magari hanno pure ragione, non lo so, la teoria che l'altro lo provocava. Cioè lui non si sarebbe fermato, ha visto questo qua, si è avvicinato, e questo l'ha un po' sbeffeggiato, quello non ci ha visto, non ci ha visto più, ma nulla, non lo so, è una strategia. Ha visto la pistola, è andato e tornato in macchina, ha preso la pistola e poi ha sparato. Sì, con lei aveva la pistola con sé? Beh, uno gira con la pistola, se la parte altro, gira. Quello è un altro elemento. Ragazzi miei, l'altro, dai, elemento, si può giustificare, aspetta, qualunque cosa. Elemento, c'è un altro elemento importante, cioè che nei mesi scorsi, dopo la morte della moglie, aveva intestato tutti i suoi beni alla famiglia. Qualcuno dice lo ha fatto apposta, in modo intenzionale, per non avere poi, cioè, una, cioè, come dire, per non soccombere comunque te la dico tutta. Questo, vabbè, qui, oltre a questo assassino che ora è in galera, che ha avuto la tragica morte incidentale della moglie, è in quell'ambiente lì nel quale, cioè, i primi a sentirsi responsabili dovrebbero essere i suoi concittadini, che hanno parlato di giustizia, quelli che lo hanno scritto, istigato, dice, lo quelli hanno che hanno creato i gruppi su Facebook, quelli, vabbè, sono, no, corresponsabili. Non si può pensare che gli omicidi, quello è il terreno, è nel quale, ma è maturata, no, la, ma sua, ma sensazione di impunità e di farsi giustizia da solo. Ma perché, se pa- perché se nel clima nel quale tu vivi, se nel contesto nel quale tu stai, tutti ti dicono hai ragione, quello è un criminale, quello sta fuori. No, ma se il contesto nel quale tu stai ti carica a tal punto da deresponsabilizzare qualsiasi tua azione. Facciamo parlare Francesco. Io ho capito quello che dici tu, ho capito quello che dici tu. Cioè tu stai dicendo, mi pare evidente. Ma sto dicendo una cosa chiarissima. Mi pare evidente, detto, mi pare evidente. Mi pare evidente. Sei arrivato a Capanna direttamente. Mi pare evidente. Sì, no, è entrato ormai dentro me. Mi pare evidente. Mi pare evidente. Sì, pare evidente. Vai, Francesco, vai, che stai quando andando? È che occupiamo questa bella emittente della Confindustria? La occupiamo un po'. Nei prossimi giorni arriveremo a occupare questa cosa. Beh, scusi, ma il piano industriale, abbiamo presentato un nuovo piano? Non ho Capano. Letto alcun piano industriale e me ne frego, anzi, tecnicamente me ne foto. Questi cosiddetti manager che hanno preso in mano questa baracca ormai sull'orlo della fine, dovrebbero, insomma, adesso, sull'orlo tecnicamente della fine, della fine. Speriamo di no. No, no, no, tecnicamente è tutto finito, dovremmo ci sarebbero... No, ma certo, sarebbero occupazioni. Uno sketch di Capanna sul disastro del Sole 24 Ore sarebbe assolutamente. Siamo pronti. Oh, così ci chiuderanno finalmente. Sì, questa è un'ottima idea. Oh, così chiudono definitivamente. Pagati, però. Pagati. Francesco, allora? Allora, visto che Davide è un filosofo, sì, piace filosofeggiare. Sì, piace la filosofia. Dicevo, ma una piccola riflessione. Se è vero che sono passati 7 mesi, diciamo, l'omicida della moglie era fuori. 6 mesi. Ripeto, se è vero che era fuori, perché poi bisogna vedere se l'omicida magari era, non era corresponsabile. Ma allora? La moglie. Dico, ma questo magistrato che doveva, non ha fatto un'udienza, così dicono. Ma qualche responsabilità ce l'ha anche. Ma il magistrato di che? Allora, pare che la giustizia in questo caso sia stata abbastanza veloce. Certo. Cioè, non ho dei termini di paragone. Allora no, vuol dire che sono, cioè, in sei mesi sono concluse le indagini con un rinvio a giudizio e c'erano anche delle perizie da fare, e non da poco. Almeno così, sì, ho sentito dire. Abbiamo letto tutto. Ma magari è una cazzata. Ma il problema non è quello, ragazzi. Il problema è che io non è che giustifico chi ha ammazzato. Beh, certo, lo hai fatto. No, io ho detto un'altra cosa. Ho detto che capisco la rabbia. coppia delle persone che parlano di eroe, ma cosa che saltano capisco? Questo lo capisco perché ma cosa, da come cosa si fa nasce a capire un lo gesto capisco insano? Perché na- no, come si fa non a dire ma no è giusti ma no ho capito benissimo stai giustificando un gesto insano, cioè tutti noi hanno delle pulsioni, no, dice, non è io gesto. Capisco la tua pulsione, no, ma no, dice no. Guarda francamente però non è che no non ho detto questo, ho detto semplicemente che quello che leggiamo, cioè di gente incazzata, di gente che dice eroe si è fatto giustizia da solo, ha fatto bene, non funziona un cazzo, tutte queste persone qui le capisco perché vedono ogni giorno la giustizia italiana, assassini impuniti, gente ma che buca gli occhi delle... alcuni casi, ma che alcuni gente casi, che no? Buca gli occhi certo. Ancora Doina è stata condannata, poco, ha scontato poco, la sua pena, ma poco. Non lo decidi vergognati, tu né, non poco. Lo decidi né tu né il codice di Hammurabi no. Né Donato da Varese, né tu né il codice di Hammurabi né Donato da Varese, codice di Hammurabi, vai a vedere Google, Massimo metti Google, da Bologna, metti dai, codice Massimo di da Bologna, Massimo, chi è che mi chiama, chi è che mi chiama? Pronto? Massimo, dimmi. Vai. Ok, ragazzi, mi sentite? Codice di vai, Hammurabi. Vai, vai. Ok, niente, no, volevo solo intervenire anch'io, volevo intervenire in merito a quello, quel coglione che ha ammazzato quel ragazzo, perché vabbè, adesso allora, questo... da quello che si sente sui giornali, questo ha fatto un incidente, può succedere a tutti, ma la cosa che è scandalosa sono questi deficienti che vi cerebrolesi che vi telefonano per dire ha fatto bene, bravo, dove bravo. Va, dove la cioè, vendetta va bene, quello è pazzesco. Ma dove cazzo viviamo? È questo beh. Che ti chiedo, cioè, ma gli italiani ha ragione Parenzo, ma ragazzi, ma io non sto giustificando qui quelli, allora non sto io non, innanzitutto non credo che i Facebook o altri social network abbiano provocato la reazione di quel di Lello, hanno non contribuito credo, assolutamente a creare no. Un clima favorevole, se uno in testa ha l'idea della vendetta lo fa a prescindere da quello ma che guarda, legge su internet, guarda ragazzi. No sicuramente se attorno a te c'è una riprovazione sociale rispetto a quel che fai, ma cioè, appartiene ai suoi società, amici, ma no, ai suoi amici e alla sua esatto, famiglia dai, qual è la differenza che siccome nella nostra società uccidere anzi vendicare un delitto vabbè. È considerato dunque? Brutto no? Cioè socialmente la vendetta non è considerata allora? Nelle società allora? Occidentali, quelle allora? Che hanno lo stato di diritto. Allora? Bene, quando questo principio viene meno, e quindi ti faccio un altro esempio: l'incesto. In alcune società l'incesto è considerato una cosa normale, da noi è riprovevole. Sì, per ma cui nessuno ha giustificato l'uomo della vendetta. Sto dicendo che in alcuni contesti sociali l'incesto non è visto come è visto da noi, vabbè. No? Quindi se questa roba qui diventa invece normale, anche dice, beh, hai fatto l'incesto, vabbè, beh, bravo, bene, Claudio ottimo, da Milano, l'incesto, vai, l'incesto Claudio, Claudio. Oh. Claudio, vai, dimmi, veloce, okay. Vai. Niente, volevo osservare una fascia a favore dei Rom, sai? Addirittura. Sai? Ecco, chiudi la baracca. Ti spiego perché, sentiamo le strade, vabbè. Allora, prima di tutto non ho mai visto una prostituta Rom, mai. Ma, come ti sbagli, comunque, una prostituta no, Rom. No, cioè, tu stai dicendo no. Che hanno una loro dignità? Secondo me sì. Prima di tutto non si sono fatti inquinare dalla globalizzazione, dalla standardizzazione delle multinazionali che ci hanno reso dei soldatini. A parte che stai parlando con l'auricolare o non so con che cosa perché si sente un rumore di fondo pazzesco, giusto o sbagliato? Beh, volevo dire... No, dimmi, stai parlando col viva voce o no? No, sto parlando al telefono normalmente. Ma comunque, caro Claudio, tu stai dicendo che hanno mantenuto pura la razza? No. Oltretutto sono umani, cioè si scopano solo tra di loro, cioè si riproducono tra di loro. Certo, poi guarda, hanno una filosofia di vita che è meravigliosa. Cioè? Non si sono fatti mettere il pizzo addosso del reddito, come si chiama la tassa sul reddito? Cioè loro hanno detto, noi viviamo da nomadi, non paghiamo qua, non paghiamo là. Sono bellissimi, hanno veramente trovato il sistema modus vivendi ad altissimo. Mi vendi? Vabbè, ciao ciao Claudio, ciao ciao ciao. Allora ragazzi, c'è un tizio che si chiama Mirko Ottaviani ed è il responsabile di Forza Nuova a... dove cazzo è responsabile di Forza Nuova? Io non mi ricordo. All'Inferno. A Cesena, in Romagna. Allora, questo signore ha organizzato un funerale, credo ieri, insieme ad altre poche persone, contro i matrimoni gay. C'era anche un signore con la tonaca, c'è poi un funerale con la bara. Cioè, e a morire era la civiltà. La civiltà, cioè i matrimoni gay metterebbero a repentaglio la società occidentale. Carnevale anticipato. Io lo chiamerei questo signore. Chiama. Thank you. Pronto? Ottaviani? Sì. Qui è una banda di froci. Sì. È una banda di froci qua. Chi parla? È una banda di froci. Una banda di froci che vuole tranquillamente celebrare il matrimonio, celebrare amarsi a norma di legge, unirsi in un matrimonio, unirsi in un legame. Mi sembra che il matrimonio sia quello composto tra un uomo e una donna, dal momento che ormai è passata sta legge. Lo dice, arrendetevi. È passata questa cosa qui, arrendetevi. Si deve arrendere alla natura, spesso la natura ha dato risposte abbastanza decise. In che senso? Che c'entra la natura? Perché qual è il problema? Io sono nato frocio, che devo fare? Mancherebbe. Se a me piace il cazzo di cambiare le sue perversioni, però. Ma perché perversioni? Perché essere froce è una perversione, non ho capito. Dal momento che la natura non ha messo. Non ha accettato che due uomini siano in grado di riprodursi, evidentemente l'ordine naturale delle cose. Io posso pensare che anche essere fascisti se fossimo tutti froci, probabilmente non ci sarebbe più futuro. No, io posso pensare anche che essere fascisti è una perversione. Per beh, no, quello è un reato, soprattutto. Ma è un suo parere personale, ci mancherebbe. Però mentre essere fascista, un'idea uno la può tenere tranquillamente, il riprodursi tra uomini, questa cosa non è concesso dalla natura, quindi mi dispiace. Se io sono froce, lo voglio pigliare in quel posto, voglio fare sesso col mio compagno tranquillamente. Qual è il problema? Lo fate in camera vostra. Senza di certo dover reclamare il matrimonio, soprattutto arrivare al passaggio successivo, che sarà quello di adottare dei bambini. E io voglio anche adottare un bambino, qual è il problema? Che sicuramente non è in grado di darle l'insegnamento che gli è portato una madre che diventa frocio pure lui. Potrebbe sicuramente essere influenzato da quello che ha vissuto. Cioè, mi stai dicendo che una società in cui io posso dire tranquillamente che voglio un bambino, che mi voglio sposare, eccetera, è una società destinata a morire. Ma ci mancherebbe, per forza. Lei prova a fare un esperimento su un'isola deserta. Due uomini, se sono in grado di resistere, di procreare. Beh, no, quello sicuramente no, ma che c'entra? Se io voglio dare un bacio al mio compagno, per esempio, ce lo posso fare secondo te in pubblico o no? Un bacio con la lingua in pubblico non si può fare. No, anche perché, ripeto, può benissimo farla a casa sua, quindi non ne vedo la necessità. Il problema è un altro, è che noi vi stiamo sui coglioni, cioè noi froci vi stiamo sul cazzo, questo è il punto, cioè noi omosessuali. No, anzi, speriamo proprio che non ci state sul cazzo, perché non è la posizione in cui vi vorremmo. Magari ti piace, che ne sai, cioè, magari ti piace, adesso non fare così, cioè, magari ti piace. No, non penso, guardi. Se io mai ci provassi, lei come reagirebbe? Con chi? Con me? Rifiuterei e laterei bene alla larga da me e da quelli che possono essere i miei figli o dei miei familiari. E che faccio? Certo, non ha niente. E che faccio? Non ho capito che sono, che c'ho la peste, non ho capito che c'ho una malattia. Non è di insegnamento. Beh, ho capito, ma mica sarà una malattia la frociaggine, l'omosessualità, no? Beh, è una perversione. Una perversione? Io non sono perversione. Tutto, tutto ciò che va contro natura può essere definito meglio perversione. Una perversione di un reato, però. Lei commette un reato quotidiano, quindi. Mi piacerebbe sapere qual è il mio reato quotidiano, se non quello proclamarsi di portare avanti fascista. Delle idee. Lei è fascista? Io sono fascista, orgoglioso. Sicuramente da quella che è stata l'esperienza passata del fascismo possiamo prendere tante cose, assolutamente. Tipo? Facciamo un esempio. Ma sicuramente tutte quelle che sono state le riforme sociali, come quello che riguarda la scuola. E gli ebrei? Come la mettiamo con gli ebrei? Signor Mussolini non amava gli ebrei, ne ha mandati un po' in Germania. Non amava se lei ha i documenti per provarlo, ci mancherebbe. Ha fatto un sacco di deportazioni il signor Mussolini, sicuramente sì, ma a meno che lei non pensi che l'olocausto non esiste, è tutto ben documentato. La risiera di San Sabba, sa che cos'è lei? La risiera di San Sabba, il campo di concentramento che c'era in Italia a Trieste, sa cos'era o no? Campi di concentramento sì, ci mancherebbe. In tempi di guerra ogni fazione aveva i propri campi di concentramento. Vengono ricordati solamente una parte. Cioè, scusi un attimo, secondo lei l'olocausto degli ebrei non è esistito? Non sono io di certo quello che può provarlo, ma dal momento che viene vietato a qualsiasi persona di potersi documentare. Ma no, come documentare? 6 milioni uccisi non esistono, secondo lei? Non ho capito. È un numero esagerato. Ma ci mancherebbe, sono diventati 10 milioni, forse diventeranno 15. Si gioca all'otto. Guardi, glielo dico con grande pacatezza. Ma l'hanno ammazzati o no, sti ebrei? Mia nonna è stata in campo di concentramento, brutto imbecille. Ma lei può dire tranquillamente e Hitler ha ammazzato un sacco di ebrei. No, non, non ho le prove io. Non ha le prove. Ma lei, ma io non ho capito, lei è veramente un coglione o fa finta? No, a volte lo faccio. Cioè, se lei fa finta di essere coglione, gliela passiamo perché è incapacità di intendere di voler. Ma non ho capito, 6 milioni esistono o sono una cifra esagerata secondo lei? Secondo me sono una cifra esagerata. Comandano il mondo o no gli ebrei? Beh, ma questo è un dato di fatto. Cioè, anche c'è la lobby ebraica guida il mondo in pratica. Ci mancherebbe, così come la stessa lobby LGBT. Dunque, lobby ebrei, ebrei e froci comandano il mondo. Forse così si spiegherebbe anche questa imposizione di queste coppie omosessuali, l'imposizione della teoria gender nelle scuole e tante altre puttanate. Froci ebrei comandano. Perfetto. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Ciao, arrivederci. Dopo il fascio e il frocio ce ne possiamo pure andare a casa. Via, chiudi la baracca. A domani, ciao. Ragazzi, la dovete chiudere questa trasmissione. Siete una banda di ignoranti per il bene dell'umanità. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.